Ma quel cretino di Parenzo, ma cosa mette? No, è vero, ma denunciateli a sta gente qua. Tutti e due compari, sono due cretini. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Che so io, dal signor Carruba, dal signor Marisoni, financo, anzi, dove chiamano in diretta? Dal signor Milan, come mai non chiama gente che cita Mein Kampf, non chiama, io mi chiedo come mai solo. Secondo Salvini, caro Parenzo, precisiamo, oggi Parenzo è in Francia da un luogo imprecisato, non lo svegliamo, da un luogo imprecisato in Francia, bisogna tenere nascosta la peregrinazione di Parenzo in Francia, perché essendo di religione ebraica, come sapete, ma adesso grazie per la potrebbe attirarsi, urbi e vabbè, non è che lo devi nascondere, no, potrebbe attirarsi varie antipatie, come dire, da quelle parti, no? Però ci sono loro. Io qua sul mio telefonino, Keep calm, keep calm, Mossad is here, keep calm. Esatto, stai calmo, però quando ti parli il Mossad ti scaldi un po'. Perché? Svelo o vuoi finire l'introduzione? No, l'introduzione è questa. Aspetta, l'introduzione è questa. Sul mio, immagini meraviglio. Vabbè, poi ti dico allora. Sul mio telefonino, adesso sono le 18:36 in punto. E anche ho messo anche dove sei tu, sì. Dunque, il fuso orario è lo stesso. Trasmetto da un bunker qui. Ho sul mio telefonino una foto, una riproduzione. C'è una. No, sul mio telefonino. Adesso lo mostro alla webcam. Sì. Sì, sì, ho capito. C'è la stella ebraica dello Stato di Israele, bella, molto messa bene, in primo piano. Keep calm, Mossad is coming. Questa è la mia cover del telefonino. È la stessa che tu mi hai mandato e che io ho riprodotto. L'hai usata come cover tu. Esatto, come cover. Fai sempre un passo in più tu. Sempre un passo in più. Sì. Perché quando c'è il Mossad io mi sento sicuro. Anch'io mi sento sicuro. Cioè, preferirei essere difeso dal Mossad piuttosto che da qualsiasi altro servizio segreto. Qualcuno parla addirittura di servizi segreti europei. Ma caramba, di cosa stiamo parlando? Ma amico mio, basta il Mossad, una parola. Io per fortuna sono coperto, perché basta che chiamo Parenzo, lui chiama qualche amico suo e siamo coperti. Guarda che se tu diffondi così, pensano davvero che sia così. Beh, un po' è così. Beh, amico. Abbiamo le pezze al culo, ma di che parliamo? Beh, insomma, se fai una telefonata il Mossad interviene, diciamo. Io? Comunque, vabbè, lasciamo perdere questo argomento, lasciamo Allora, Salvini, ma hai visto, scusa, il signor Netanyahu ieri, no? Ma non me ne frega niente, adesso lascia bene, fammi finire questa introduzione, dai, poi parliamo di Netanyahu, abbiamo un sacco di tempo. Salvini, milioni di persone sono pronte a sgozzare, anche sul pianerottolo, secondo Salvini. I vostri pianerottoli! Pua. Sono sicuro? No, perché pua? Perché sputi sus? Ma vabbè. No, ma non è, non no, è così. No, non mi piace questa roba. Dai. No, questo è serio. Veramente, vai avanti. Non ti piace, non ti piace questo allarmismo salviniano? Questo allarmismo salviniano. Allarmismo? Lo chiami allarmismo? Ma sta facendo scatenare la terza guerra mondiale questo ragazzo. Ma finiscila, Salvini, la terza guerra mondiale, lui. Cioè, la cosa incredibile è che se la pigliano con Salvini, che fa la sua strategia politica di come faceva il PD su Berlusconi, con la sinistra su Berlusconi, lo fa in questo momento sull'ISMA, fa politica, dicendo anche delle cose, secondo me, ragionevoli, in alcuni casi no, in alcuni casi sì, e tu dici puà, sentiamo. Nel nome dell'Islam ci sono milioni di persone in giro per il mondo e anche sul pianerottolo di casa nostra che sono disposti a sgozzare e a uccidere. Quindi non è una religione come le altre, non va trattata come le altre religioni, e quindi prima di concedere qualsiasi spazio, qualsiasi centro, qualsiasi moschea, bisogna pensarci 18 volte, non una. E la sinistra che non le capisce fa un favore ai terroristi. Allora, intanto, mentre sul prossimo numero di Charlie Hebdo usciranno altre vignette, meno male, altre vignette su Maometto, il comico Dieudonné, cosiddetto comico fascio musulmano, non mi piace, viene indagato. Vabbè, a te non piace, perché tutto quello che tocca la religione ebraica non ti piace. No, io ho detto anche che aspetta, non mi piacciono molto le vignette. Il comico, il comico Dieudonné indagato per apologia di terrorismo, solamente per aver scritto Je suis Charlie Koulibaly, che è uno dei terroristi, unendo il nome del giornale chiaramente al terrorista. Democrazia. Ma è una presa mio. Per Tribunali. Il culo. Di Donelo si combatte non con le scimitarre ma con i tribunali, vabbè. In Occidente. Ancora Salvini che critica il Papa. Ancora è tornato a criticare il Papa. Beh, ma se uno è cristiano non può contestare al Papa il fatto che quando va a Lampedusa a dire avanti c'è posto per tutti, commette un errore. Che alcuni atteggiamenti siano un male per i cristiani che vengono massacrati in giro per il mondo, lo dico. Se vai in Turchia a casa di qualcuno che ha distrutto centinaia di chiese, ecco, secondo me un limite al dialogo sarebbe necessario. Oh, siamo con Salvini che vuole dettare la linea al Papa. Però mentre succede tutto questo, mentre sappiamo quello che è avvenuto ieri a Parigi, eccetera, eccetera, una piccolissima parentesi su bella cosa. Quella manifestazione. No, aspetta, sì, vabbè, ma chi se ne frega? Aspetta un attimo. Beh, un bel abbraccio. Allora, in Liguria se le danno di santa ragione, amico mio. La cosa più incredibile è che il signor Cofferati, detto il cinese, accusa i cinesi di averlo fregato praticamente. Sì. Questa è la cosa più incredibile. Sì. Cofferati, esatto. Detto il cinese, accusa la sua avversaria, questa è in sostanza la questione. Chi ha vinto di avere mobilitato cinesi, la destra, i fascisti, dice lui, che tutti ai seggi per fregarlo per circa, credo, 3.000 voti, eccetera, nelle primarie. Il suo avversario, quello che ha vinto, quello che sarà il candidato del PD in Liguria, si chiama Paita, un assessore, quella, si chiama Paita, sì, quello io dico quel candidato, poi che sia donna o uomo è uguale, Paita. Chiedo che la commissione di garanzia esamini tutte le segnalazioni che le sono arrivate, da quelle che riguardano la partecipazione impropria e inaccettabile del centrodestra. Questo era Cofferati, signor Cofferati. Voci dalla moschea di Roma. Che ne pensa degli immigrati che... Fanno schifo, ecco qua, basta, non li voglio vedere proprio, io non li posso vedere nessuno, perché ci hanno messo in un guaio noi italiani, solo Dio lo sanno. Se prendono tutti i negozi, se prendono tutto quanto, e non ci fanno per prendere niente a noi. Da tanto tempo che scrivi male contro i musulmani. Non aspettare? Ah, certo, insulta i musulmani. Ha pregato per le vittime di Parigi? No, no, mi dispiace. Con noi Salvo Mandarà. Salvo. Ciao Giuseppe, come stai? Bene, caro Parenzo. Allora, Salvo Mandarà, precisiamo, se no ogni volta inizia una discussione infinita, eccetera, eccetera. Salvo Mandarà è stato un filmmaker di Grillo sul palco, eccetera, eccetera. Non fa parte più del movimento da un sacco di tempo, fa il reporter indipendente. Così chiudiamo questa parentesi, se no ogni volta uno dice grazie. Grillino, eccetera. È e Grillino. Ti sei guadagnato già il primo bacio per questo. Ma no, io e non voglio. No, bacio, Parenzo. No, finito. No, non mi chiamare Parenzo, se no rovini tutto il ben fatto. No, distrutti. Distrutti 20 anni di carriera di un uomo, carriera discutibile quella dei Cruciani, però distrutta no, con bacio, un bacio. 20 bacio, anni no, di bacio, scusa, Salvo, adesso non mi dare baci, non c'è bisogno in di senso dare... figurato, Giuseppe, dai, in senso no, figurato. No, in senso figurato, io devo dire, Salvo Mandarà cosa avrà di uno importante dopo? Viene definito Grillino perché giustamente è stato molto vicino ai 5 Stelle, non ti devi stupire di questo, Salvo, no, nell'informazione. Ma non mi stupisco, ma io lo sono ancora vicino perché ho tantissimi amici nel giusto, Movimento 5 Stelle, giusto, però giusto. Sono libero e indipendente, va questa bene, è la differenza. Quello io lo presumo di tutti però, lo presumo di tutti. tutti. Comunque, libero, indipendente, un po' strampalato. Caro Parenzo, anche. Io vorrei sottolineare una cosa. Mandarà ha una sua idea che si è fatta in maniera piuttosto rapida su quello che è avvenuto, sì, a Parigi. Dice che sentiamo, prego. La morte, prego, del poliziotto, lui dice che è sostanzialmente una sceneggiata con un attore, la famosa scena drammatica, incredibile, di quel poliziotto crivellato di colpi. Cioè, come si fa a dire che è un attore? Ed è ancora in circolazione. Mandarà, sì, è libero. Per adesso nessuno lo ha arrestato. È ancora a piede libero, diciamo. Per fortuna è a piede libero. Allora, no, non arrestato, portato in una clinica specializzata. Ma no, avanti. Dai, su, no, comunque. No, figuriamoci. Guarda, t'ho fregato, Parenzo, ascolta qui, guarda, perché che hai fatto? Lo sapevo. Guarda, che hai fatto? Qui, che hai fatto? Lo sapevo, per forza. Eccola, la sirena, la sirena. Ma perché la usi sempre, la questa usi è buona, no, questa però è meglio della nostra. Com'è che fa, Salvo, scusa, la vuoi accendila un po'. Ma questa forse non è che la perché polizia è vera. No, no, è un'ambulanza, è un'ambulanza. Perché l'hanno preso davvero? No, ma perché l'hanno preso davvero? Però scusami, Salvo, io non ho capito, ma sì, davvero, sì, pensi che quello là a terra sia un attore? No, allora, io questa cosa l'ho spiegata bene, ovviamente, non so se tu poi ieri mi hai ascoltato su Salvo 5.0. Io ascolto tutto, ascolto tutto. E allora te lo ripeto per il grande pubblico della, sì, Zanzara, bene, che saluto, sentiamo, e a cui porto i saluti, sì, di tutto il pubblico di Salvo 5.0. E gli omaggi anche, gli omaggi. Di tutto l'ospedale. Allora, praticamente, caro Giuseppe, se Parenzo mi fa parlare, però... Prego, però, scusa, volevo salutare il reparto di terapia. Allora, io ho scritto in tempi non sospetti, cioè agosto del 2013, quindi sì, un anno e mezzo, sì, fa abbondante, sì, ho scritto un articolo nel mio blog, un post, sì, diciamo, sì, in cui, sì, ho messo il titolo "Benvenuti nel Truman Show al contrario", sì, in cui sostengo che il pianeta Terra sia una sorta, sì, di grande Terra, teatro di posa a cielo aperto, in cui tutti noi, 7 miliardi di umani, siamo degli attori, no, o comparse, e contemporaneamente spettatori, sì, più o meno consapevoli. Mentre nel film... Vabbè, questo è il quadro, questo è il quadro generale. Ma quale quadro? Aspetta, il quadro generale. Stai zitto. Scusa, questo è il quadro. Parenzo, ma sei pesante. È pesantissimo, pesantissimo. Giuseppe, ma tu sei un santo, veramente. Ma che devi fare? Guarda, non so, veramente non so come fare. Infatti, guarda, anche oggi mi sono incazzato. Però, allora, il quadro generale è questo qua. Viviamo tutti in un grande Truman Show. Nel particolare, nel dettaglio, perché questo per terra sarebbe un attore? Cioè, il povero poliziotto... Quello per terra, poverino, potrebbe anche essere un attore inconsapevole. Cioè, in che senso, scusa? Nel senso che non era cosciente di recitare un film. Sicuramente, sì, sicuramente quelli che gli hanno sparato erano attori consapevoli. Attori consapevoli. Sicuro. Ma gli hanno sparato o no, secondo te? Questo non lo so io. Come io non lo so, quello è morto. Diciamo che mi vengono alcuni dubbi. Però, Mi vengono alcuni dubbi. Per esempio? Beh, allora, io, come tu sai, ho una laurea in ingegneria. Sì. Una delle cose che ho studiato in fisica è il principio della conservazione della quantità di moto, sì, di moto, che di dice moto, che, sì, certo, la massa e la velocità di un corpo che va a collidere, sì, con un altro corpo, di massa, sì, e velocità, di massa, no, e velocità iniziale diversa, devono interagire in qualche modo e si deve conservare questa uguaglianza, sì, M1 dunque, V1 uguale M2 V2. Capito? Allora, si deve conservare l'infermiere. Allora, non tu hai un proiettile, l'infermiere un proiettile, si deve confermare. Parenzo, ma sei un rompiballe. No, aspetta. Ma cosa aspetta? Ripeti ma la non formula. Ce la faccio più. Ripeti ma la formula. Aspetta. Ripeti la formula. Il cadavere per terra è falso e quelli sono falsi. Il Truman, basta! Aspetta. Non ne posso più. Giuseppe, mi richiami quando finisce. Un cazzo. Aspetta, stai tranquillo. Vuoi rimettiamo la sirena? No, aspetta. A me. Scusa, Salvo, vuoi ripetere, sì, la formula, la tua, sì, formula, sì, magica? Ripeto, però tu tieni a cuccia Parenzo. Sì, sì, lo tengo a cuccia, però ripeti la formula a Parenzo, ripeti, prego. Allora, ti prego. M1 V1 uguale M2 V2, molto semplice. Molto più semplicissimo. Un attimo, fermi. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Ma però qui, caro Rigoli, stiamo parlando di cose serie, eh? Allora, siamo con Salvo Mandarà, Salvo 5.0, e Parenzo in collegamento da un luogo nascosto della Francia. Parenzo, hai sentito la formula che ha utilizzato Mandarà, che è la formula magica per capire perché tutto quello che è avvenuto nei giorni scorsi è un'enorme sceneggiata all'interno del Truman Show. Pensa quanto sono bravo a riassumere quello che ha detto Mandarà. Allora, bravissimo. Caro Salvo, allora, voglio dirti una cosa. Questa formula matematica che hai prima testé utilizzato, Parenzo, come si applica al caso in questione? questo è interessante. Si applica in questo modo. Allora, se tu hai un proiettile che viaggia a diverse centinaia di metri al secondo, che ha una certa massa, quando va a impattare su un corpo di una certa massa, non può quel secondo corpo rimanere fermo. Sì, capito, Parenzo? Allora, qui le cose sono due. C'è la tesi più complottista, che io non do per scontato, potrebbe anche non essere vera, che addirittura il fucile sparasse a salve. A salve addirittura. Oppure, invece quella tua qual è? La tesi, no, pure c'è la tesi meno complottista che dice che il fucile era un fucile normale, ma che ha mancato il bersaglio. Non ho capito, ma alla fine della fiera, il fatto alla che fine, alla fine, se non intervengono immediatamente le forze speciali, chi ha organizzato tutto questo per bloccarlo, per bloccare allora, lui io, però? Io non lo so chi ha organizzato. Allora, secondo te, quindi, chi ha organizzato tutta questa messa in scena? Aspetta, prima mi piacerebbe concludere questo pensiero fisico, perché dico, ma se il colpo non è andato a segno, questo povero poliziotto come è morto? È come morto? Ma come è morto? È morto di paura? È morto di paura? Oppure l'avevano colpito in precedenza con altri proiettili? È morto perché dalle idiozie che sta sentendo ora! Sì, è morto una seconda volta! Madonna mia, che palle! Ma quanto lo pagate questo qui? Io non lo so. Perché abbastanza. Come fa? Deve avere un fegato grosso. Allora, però voglio dire, come secondo te, questo qua è vivo o morto, questo poliziotto? Ma io non lo so, te l'ho detto, se era un attore inconsapevole, cioè una vittima, sarà anche morto, poveraccio. Se era un attore consapevole che gli hanno sparato a salve, sarà vivo. Comunque, sicuramente, sicuramente una sceneggiata questa quella. Ah, questo è poco ma sicuro che sia una sceneggiata. No, scusa, ma ti spiego anche perché, se vuoi. Dimmi. Anche perché. Allora, fra l'altro, queste cose non è che le dico solo io, Chi le dice? Perché pure? che la matrice sia la stessa, per esempio, dell'11 settembre. Come che David chiama, cioè, Consiglia. Certo, ci sta la CIA dietro, ci sta il Mossad. La CIA e il Mossad, ecco Parenzo, la CIA e il Mossad dietro l'11 settembre, dunque anche dietro questo attacco terroristico, dici tu. Ovviamente, secondo me sì, anche perché ti spiego una cosa. Hanno assaltato una cosa ebraica, un supermercato ebraico. Com'è possibile che dietro questo l'assalto al supermercato ci fosse il Mossad, scusa? L'assalto al supermercato ebraico è stato fatto da una persona diversa, è un'azione diversa da quella principale, ok? Quindi è una cosa un po' all'atere. E poi scusami, tu dici come l'11 settembre. Ma scusa, l'11 settembre sono morte veramente migliaia di persone, mica era tutto finto, erano finti gli aerei, erano finte tante cose, ma le persone dentro le torri sono morte sul serio. Gli aerei erano veri, perché sono come finti gli aerei, scusa. Se non gli ce ne sono aerei, nessun aereo ha colpito le torri gemelle. Abbiamo come nessun aereo. Dai, Salvo, però questo non me la vuoi. Ma no, ma nessun aereo. Ci sono gli aerei che si vedono dappertutto, non puoi dire che è tutta una farsa. Ma dove dappertutto? È un unico film, è l'unico, lo stesso ripreso da tutti i canali. Guarda che se continui sugli aerei ti lascio in pasto a David, se continui. Però scusami Giuseppe, ti devo dire una cosa. Ieri negli SMS che ci siamo scambiati in privato, tu mi hai detto anche io ho qualche dubbio. Ti prego di dire quali sono i dubbi che hai tu. Ti prego, adesso voglio dire, non è che devi fare guarda, io te lo giuro. Se Cruciani, che conosco ormai da tanti anni, ha tanti difetti, se per caso ti ha detto i miei dubbi sono sulla carta d'identità, sul fatto che ci sia stato qualche errore di troppo nella costruzione di questo piano, sul fatto che sono stati uccisi ogni volta le persone vengono uccise e non resta nessuno vivo. Certo, qualche dubbio può venire, bravo, di questo bravo, tipo. Meno male. No, ma ho capito, però non dico che non ci sono stati gli aerei l'11 settembre. Ma scusa, vabbè, lasciamo stare gli aerei, troppo complicato per voi. Ti faccio un'ultima domanda, Giuseppe, scusa. No, ma la domanda le faccio io, dimmi. E allora una considerazione. Dimmi. Allora, ma da questa strage della relazione. No, ma un altro dubbio, spiegami, qual è? Non scrive sull'IMES questo signore qui. Ma adesso che c'entra? Dai, io voglio capire, Salvo, perché qual è un altro dubbio al di là degli spari che potrebbero essere a salve sulla base di del poliziotto che secondo te posso sapere sulla base di cosa, cioè questi due sono degli attori secondo te, questi due che sparavano lì al poliziotto, questo è sicuro, questo è ma sicuro, come fai a essere sicuro che fossero degli attori? Ma aspetta, scusami, ma non è che dico che sono degli attori, cioè delle persone che hanno fatto la scuola del cinema di Cinecittà che o cosa Hollywood. Allora, ma sono degli agenti dei servizi segreti che sono andati lì a fare questa azione, questo intendo dire, che sono degli attori, cioè agenti dei servizi segreti. Cioè, tu stai dipingendo come agente dei servizi segreti. Sai che c'è qualcuno che dice che in realtà il fisico, come dire, le carte d'identità, il profilo di questi due non corrisponde a quello dei due veri, dei due fratelli, non corrisponde alle immagini che abbiamo visto. Vabbè, comunque. Vabbè, io questo non potrebbe anche essere. Non, io non è che, Giuseppe, come ti dico sempre, non è che io so tutto di tutto. Magari dovreste dico della Mirandola. Ma hai detto che sono io sicuramente. Hai detto che sono dei servizi segreti, però. Secondo te sono sicuramente dei servizi segreti? Scusami, ti faccio notare alcune cose, Giuseppe. Fammi notare, sì. La Francia sì. Ha appena, cioè poco prima della strage, aveva dichiarato la sua disponibilità a riconoscere lo Stato di Palestina. Vabbè, okay? Che c'entra questo? Sai che aveva fatto? Che c'entra? La stessa cosa aveva fatto la Norvegia. Ma ti ricordi cosa è successo in Norvegia? Quella strage di quante decine di persone ammazzate da quel pazzo, fra virgolette? E beh, che c'entra allora? E allora te ne dico un'altra. Pare che la Francia pensasse anche, stesse pensando anche forse di uscire dalla NATO. Ma secondo te è accettabile questa cosa? La Francia sta valutando di abbandonare il dominio del dollaro, magari, e avvicinarsi per esempio ai BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, eccetera. Prego. Allora, ma la domanda è questa, Giuseppe, la domanda delle domande. La domanda è questa, come mai alle 18:54? Anche per il dottor David Parenzo. La domanda è un'altra. Poi parli tu, io ancora farò un minuto e poi me ne vado. Allora, la domanda è questa, vai in terapia intensiva. Da una cosa del genere, il popolo musulmano ci ha guadagnato qualcosa? Ma che ne so, il popolo musulmano, sai, i musulmani sono tanta roba. Cosa vuol dire? I musulmani non ci guadagnano niente, anzi, conquistano ulteriore odio, conquistano ulteriori droni. La CIA è il Mossad, benissimo. Europa, Israele, America sicuramente da questa cosa ci guadagnano un sacco, perché hanno un altro casus belli per andare a sterminare qualche altro popolo inerme, come hanno fatto con l'Iraq, con l'Afghanistan, la Siria, la Libia, eccetera eccetera. Certo. Quindi una scusa per alzare la tensione. Tre piccioni con una fava, cioè da una parte creano il casus belli e quindi possono fare la prossima guerra, dall'altra si tolgono qualche rompicoglioni, come per esempio Bernard Maris, poveraccio, che ci ha rimesso le penne. Vabbè, non mi dire che pure quello, anche tu sei della teoria che questo Maris che stava là dentro, che è uno che aveva delle teorie economiche, l'hanno colpito apposta. Senti, diciamo che come minimo sono stati molto molto felici di averlo colpito. Poi mi risulta che lui era un azionista di Charlie Hebdo, aveva mi pare l'11%, se non ricordo male. Guarda caso l'hanno invitato proprio, quindi non voglio dire che gli hanno teso un agguato perché sapevano quello che doveva succedere. Comunque Salvo, la cosa che colpisce di più aperto, cioè Draghi e tutti gli altri criminali della Banca Centrale Europea hanno aperto bottiglie di spumante, certo. Quando hanno saputo che Maris si era tolto dei coglioni, è ovvio. Senti Salvo, però una cosa mi devi dire. È ovvio. No, è cosa incredibile che poi certo, dice ovvio, perché no? Lui rompe le palle, perché certo, lui fa lezioni all'università, scrive libri dove spiega la truffa del debito. Io sto poliziotto, alla fine il fatto che non sia uscito il sangue per me non significa nulla, per te invece significa qualcosa che non è uscito il sangue? Io sul fatto del sangue onestamente non insisto più. Ma l'hai scritto tu, nessun sangue, nessun rinculo, nessun movimento del corpo uguale falso. Quello lì è un video che io ho trovato in rete, non l'ho scritto io. Beh, però lo condividi. L'ho condiviso, ora molti dicono che esistono dei proiettili particolari che consentono la non uscita di sangue, va bene, però la legge della conservazione della quantità di moto, quella resta. Capito Parenzo, la formula magica io la vorrei ripetere, resta come tutto, le idiozie, Giuseppe, che abbiamo sentito. No, aspetta, cosa. No, devo finire, finire, c'è la pubblicità, aspetta un attimo. La formula magica da cui capire tutto, indicata da Salvo Mandarà, che il corpo colpito da proiettile non può stare fermo, è M1V1 uguale M2V2. Sì. Che c'è, Salvo? Non ho capito. No, magari se vuoi dopo la pubblicità, però io ti voglio dire il movente di questa cosa. Mancava questo. Giornale radio. Ecco. Allora, M1V1 uguale M2V2, molto semplice. Sono condannato ad ascoltarvi, sono costretto proprio causa forza maggiore a sentire la vostra radio, la vostra trasmissione, non posso farne meno, sono proprio condannato. Parlano i comunisti, il segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero dice la sua sulla strage. D'altra parte parlano tutti, può parlare anche il segretario del partito della Rifondazione Comunista, per carità. Parla Ferrero. Allora, allora bisognerebbe dire che un pezzo del terrorismo islamico è stato costruito volutamente dagli Stati Uniti per far saltare dei regimi, perché se non si dice questo raccontate delle balle. Breivik, senti. Vorrei far notare all'onorevole Santanchè che nell'estate del 2011, un signore in Norvegia ha ammazzato una novantina di ragazzi in nome dell'essere contro gli islamici, ha capito? E si è dichiarato occidentale, sionista e antislamico, è chiaro? Quindi io sono contro tutti i terroristi. E io penso che il primo modo per combattere il terrorismo è quello di evitare di descrivere tutti coloro che hanno una fede in Maometto, che sono musulmani, come potenziali terroristi, perché questa è una porcheria, è una pura e semplice porcheria di gente che come avvoltoi usa il disastro del terrore per fare le sue politiche di paura. Ragazzi, però una cosa bisogna dirla, questi qua hanno ammazzato, continueranno ad ammazzare e ammazzano nel nome di Allah. Ma è chiaro o no che ammazzano nel nome di Allah? Adesso, al di là del fatto che uno può pensare che siano agenti dei servizi segreti, come dice Mandarà, ammazzano nel nome di Allah, nel nome di, dicendo Allah è grande. Questo bisogna dirlo. C'entrerà qualcosa il signor Maometto, il Corano o no? No, lui no. Punto interrogativo. No, no, non lui. Beh, il signor Maometto in persona no, ma quello che ha scritto, quello che ha detto, ma il signor Maometto, il Corano, o l'interpretazione, no. Come no? Certo, come l'interpretazione no? Politica, sì, dai, su, di sì. Una parte di Islam radicale, sì, questo vabbè, sì, perché sì, altrimenti sì. Dovresti fare come Salvini, dichiarare guerra in Francia a 5 milioni senti, di che dicono, islamici. Senti che dicono, in Italia 2 milioni. Senti che dicono da Milano, voci intanto prese... è arrivato Grillo qua sì, do dove? Notizia. Al Parlamento Europeo? Dove? A Strasburgo, qui a Strasburgo. Ah, alla fine sei a Strasburgo Europeo. Tutto sto mistero sei a Strasburgo. Ma vai, incredibile, dai. Dai. Il vostro partito sarebbe d'accordo con gli avvenimenti di Parigi di questi ultimi giorni? Sì. Sarebbe d'accordo con gli avvenimenti di Parigi di questi ultimi giorni il vostro profeta? Sì, perché nessuno... Cioè, sarebbe d'accordo con gli omicidi di questi ultimi tempi? Cioè, nessuno dovrebbe dire male di un'altra religione. Quindi voi siete d'accordo che siano state uccise 20 persone? 15 sì. Persone? 12 persone? Vabbè, mettete d'accordo però su quante persone sono state uccise, eh? Titoli TG3, cazzatevi un po', dai! And now, the headlines, News Channel 3. Dopo la grande marcia di ieri a Parigi, massima allerta, sotto protezione soprattutto le scuole ebraiche, Charlie Hebdo annuncia mercoledì nuove vignette su Maometto. E caccia i possibili complici degli attentatori della capitale francese, all'aeroporto di Istanbul l'ultima traccia di Hayat Boumediene, la moglie di Koulibaly. L'Europa si interroga su sicurezza e intelligence, Gentiloni, nessuno vuole sospendere Schengen, non ci sono minacce specifiche all'Italia, Prodi ospite del TG3. In partenza per l'Oriente, il Papa al corpo diplomatico, i leader islamici condannano la visione fondamentalista della religione, due stati per Israele e Palestina. Settimana decisiva tra fine del semestre europeo, riforme e dimissioni di Napolitano, per il capo dello Stato oggi ultimo faccia a faccia con Matteo Renzi. Stefano Cucchi fu picchiato, scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza d'appello che ha assolto agenti e medici, ora nuove indagini, gli atti alla procura. L'annuncio di Emma Bonino in diretta a Radio Radicale, ho un tumore ai polmoni, dovrò fare 6 mesi di chemioterapia, non rinuncio alla politica e alla stampa, chiedo rispetto. We'll be right back. recentemente mi sono sottoposta a dei controlli medici rutinari che però hanno evidenziato la presenza di un tumore al polmone sinistro. Si tratta di una forma localizzata e ancora asintomatica, ma ciò nonostante richiederà un trattamento lungo e complesso di chemioterapia che è già stato iniziato e che durerà almeno 6 mesi. E pensa che qualcuno, caro Parenzo, ha commentato dopo l'annuncio di Emma Bonino di avere un tumore ai polmoni, qualcuno che ho visto su Twitter, su Facebook, eccetera, beh, insomma, fuori una dalla corsa al Quirinale. No comment, no comment. Allora, sto lucidando il mio busto di Marchionne, caro David, caro David. Perché oggi ci sei o non ci sei? Perché non ti sento. No, no, non c'è. Dove cazzo è andato? Stavo parlando con lui. C'è o non c'è, David? Lo stavo lucidando perché oggi Marchionne ha assunto 1500 persone a Melfi. Allora, riprendo il commento che ho letto su Facebook. Ma insomma, dove sono quelli che di solito lo insultano, che lo considerano un danno per l'Italia, che lo mettono alla berlina, che pensano che faccia solo i cazzi suoi, come è giusto che sia, d'altra parte, eccetera, eccetera. Capito, caro Parenzo, com'è possibile questa cosa qua? Dove sono queste persone che insultano continuamente Marchionne mentre io lucido questo busto meraviglioso? L'ho lucidato fa oggi il suo dovere, a casa. Amico mio. Che non vuol dire fare fa il suo troppo, dovere? Troppo trionfalismo. Fa, ha assunto fa 1500 persone, no? Beh, una cosa positiva o no? Applauso, bravo. Beh, ma meno male, ma certo, che deve fare? Deve solo chiudere che le fabbriche. Il suo mestiere. A Melfi ha assunto 1500 persone, inchinati. Va bene, ma benissimo. Inchinati, bravo, era ora. Ora porta per cortesia anche la parte finanziaria dell'azienda in Italia. Ma chi paga se ne frega, le tasse ma perché? Ora. Ma è giusto che paghi le tasse dove costa di meno, pagare le tasse, non in Italia dove ti rapinano. Noi in Italia dove ti rapinano. Oggi è una bella giornata perché verranno assunti nuovi operai e nuovi lavoratori. Vabbè, io volevo però la conclusione dell'intervento di Salvo Mandarà, perché ci doveva spiegare, Salvo Mandarà, i mandanti o le cose di questa messa in scena in cui abbiamo assistito a Parigi nei giorni scorsi. Che stavi dicendo? Le motivazioni, i mandanti, cosa mi volevi spiegare per concludere? Allora, sì, allora ti volevo dire uno dei possibili moventi, oltre a quelli che ho già detto prima, che accomunano moltissime cose strane che succedono, come la morte di Gheddafi, la morte di Saddam Hussein, la morte di Sankara, che tu non sai manco chi sia. Chi ovviamente cazzo è quello? Chi? Lo so che tu lo sai. Thomas Sankara era il presidente del Burkina Faso prima che venisse ucciso da Blaise Compaoré, che è l'attuale presidente. Vabbè, ma adesso che cosa c'entra? Il Burkina, siamo arrivati a c'entra, Faso. C'entra perché Bernard Maris era un antagonista delle banche, della truffa delle banche. Secondo te, dobbiamo riassumere. Bernard Maris rimasto ucciso non dobbiamo solo riassumere, all'interno della redazione un reparto specializzato all'interno della redazione di Charlie Hebdo, e secondo te è stato ucciso apposta? No, ma devi arrivare a questa conclusione, però, se sei coerente. Certo, io ti posso dire che come cittadino, contrariamente a molti altri pecoglioni, è un mio neologismo quello, misto di pecoroni e coglioni, pecoglioni. A differenza di tanti pecoglioni, caspita, io mi pongo qualche dubbio. Anche. Io non ho certezze, caro Giuseppe, però sicuramente il fatto che Bernard Maris sia morto, sicuramente ha riempito di gioia Draghi. Ma questo l'abbiamo già detto, però, qual è l'altra motivazione? Ma questa è la motivazione. È la motivazione regina, perché lui regina, sì, come per esempio regina. Fa anche Marco Saba in Italia, anzi perché non intervisti Marco Saba? Marco Saba è uno studioso, ne basta uno al giorno, di moneta che spiega che le ma banche siamo italiane arrivati alla moneta, hanno ammazzato 12 persone, quelle che sono 16-18 a Parigi. Dai, e tu mi parli di uno che contesta, certo, le banche, perché? Certo, perché questo è il grande raggiro, la grande truffa che si perpetua dal 1690 in tutti siamo i paesi assetti civili fino a oggi, perché i banchieri, i banchieri, ma che c'entra questo con l'eccidio di Parigi, con la strage di Parigi, che c'entra? Sto cercando di dirtelo, se me lo fai dire, perché questo signor Bernard Madi faceva lezione all'università e vabbè, d'accordo, ma uno non è che fa una strage per ammazzare uno studioso, amico mio, dai. No, perché lui spiegava a migliaia di persone una cosa che in nessun media italiano passa. Vabbè. E sono sicuro che tu adesso tagli la linea, perché non può passare neanche Radio 24. No, e cioè, ma figurati, truffa, io non ho problemi. E allora fammelo dire, passare, allora fammelo, guarda, dire, guarda, fammelo dire. Dimmi. No, ma ho capito la truffa, ho capito. Adesso no, fammelo dire. Non possiamo spiegare tutta la truffa. Questa cosa non la lo facciamo un'altra volta, tutta la truffa. Secondi. Vedi, no, che non me lo fai dire. No, me lo fai 30 dire, secondi, 30 però, da adesso 30. Allora, le banche italiane occultano, fanno falso in bilancio per 2.000 miliardi di euro all'anno, solo Unicredit 500 miliardi di euro. Sì? Allora, perché quando tu, Giuseppe Cruciani, vai a chiedere un mutuo, loro in bilancio non mettono i 200.000 euro che mancano tu 15 secondi, allora? Fanno falso in bilancio, quindi ci fottono un imponibile di 2.000 miliardi. Ma che c'entra questo con le stragi di Parigi? Poniamo che sia vero quello che dici, cosa perché c'entra? Ci sono trilioni e trilioni di dollari che i banchieri israeliani, americani e britannici ci pregano ogni anno. Ho capito benissimo, ti ho lasciato chiunque contesta muore, ho capito benissimo. Parenzo, chiudi questa telefonata, chiudi. Allora, la schizofrenia è un grave disturbo psicotico. Chi ne ha affetto diventa del tutto indifferente a ciò che gli accade intorno. La schizofrenia compromette tutti gli aspetti della vita del soggetto. Intervenite in ordine di importanza decrescente. Vabbè, guarda, nella schizofrenia vengono identificati vari sottotipi. Uno, paranoide, cioè il soggetto, questo è il caso, presenta rilevanti deliri o allucinazioni. Ciao, salvo, a presto. Ciao. Allora, M1V1 uguale M2V2, molto semplice. La prova regina, secondo Salvo Mandrà, abbiamo assistito a una grande messa in scena. E la formula magica è quella che avete ascoltato. Mauro da Mantova. Ciao Cruciani, ciao Paraculo. Oh, Mauro. Ciao Paraculo. Mauro, calmi, tutti calmi, state calmi, dimmi Mauro. Mi sono fatto un giretto su Wikipedia. Sì, è vero, no, Wikipedia. Che strano, il tuo vicino, che non oso nemmeno nominarlo, sì, lavorava nel gruppo Mediapason, mi risulta che di un certo Sandro Parenzo, strana coincidenza. Come, non ho capito? Ah? Ma quella è una roba vecchia, quella lavorava in un gruppo dove il cui capo, diciamo, il proprietario era uno che si chiama Parenzo, ma non è suo parente. Oh. Allora, sai, ti faccio una domanda. Dimmi, sai, fammi una domanda. Sai cosa hanno in comune Soros, Madoff, quello che ha fatto la bolla ecologica, Clinton, Reagan, Mastro Pasqua, che cosa? Mastro Pasqua, Clinton, Reagan, Pasquale, Brutti Liberati, Tronchetti Proera, De Benedetti, Monti. Che cosa hanno in comune, scusami? Sto curioso. Parenzo lo sa cosa hanno in comune. Cosa hanno in comune, spiegami Mauro. Sono tutti ebrei. Ma non è vero, ma Telese non è ebreo. Ma dai, ma ragazzi, guarda. Oh bello, puoi fermarlo. Bello. Non è ebreo. Puoi spiegare, allora, tu per cortesia. Gli ebrei si dividono. Aspetta, se fammi sentire. Lo mando a far culo, te lo giuro. Aspetta, I cognomi. Delle località, sì, sono gli ebrei meno abbienti, ma quelli più abbienti, che hanno il grano di vecchia data, hanno il doppio cognome. Ma Telese, hai fatto un nome tra le tante cazzate che hai detto, una però è una veramente enorme cazzata. Il signor, allora, Telese è stato dichiarato il falso. Ma da chi è stato dichiarato il falso? Da chi? Io lo so in TV che è ebreo. Comunque, al di là di quello, ha detto in TV che è ebreo, ma quello è comunista, così. Allora, a parte che ci sono anche comunisti ebrei, ma comunque. Ha detto una frescaccia in TV. Ma non l'ha mai detto di essere ebreo, Mauro! E allora ho detto una cagata! Ma chi l'ha detto? Chi? Ma tu, cazzo, e tu l'ha detto! Ma chi l'ha detto in TV? Dove? Perché mi ricordo, no! Ma l'ha detto tu! Vabbè, Mauro, al di là di questa cosa, perché non dovrei dire, se non... Ascolta, ho creduto a quello che è stato detto in TV. Vabbè, sei un coglione, dai, sei un coglione. Sei un emerito coglione, dai, su, Mauro. Ma che cazzo dici? Testa di cazzo! Ma che io le cose me le vado a documentare, oh bello! sei talmente documentato che hai detto che una serie di persone hanno in comune il fatto di essere ebrei, quando forse ne hai nominato uno che è ebreo e comunque non c'entra nulla. Ma che cazzo dici? Ma se si nascondono con i cognomi, il suo nome e il cognome, sai come finiscono? Okay. Finiscono con la consonante, lo sai? Bush, Shorus, Marcinkus, sono tutti ebrei. Marcinkus? Ma quale Marcinkus? Ma quale Marcinkus? Sono di estrazione ebraica. Legare a un letto di come anche Putin. Putin, Lenin, Stalin sono di estrazione ebraica. Cazzo, ho convissuto con una che era impiegata e che è me. Ha lavorato 15 anni che è in ufficio. Non ho capito che cosa hai convissuto con chi, scusa Mauro, non con questa Ucraina. Con una malattia con un'Ucraina che è stata 15 anni che è in ufficio. Ha convissuto con un'Ucraina che è stata 15 anni al KGB. Ma di cosa stai parlando, Mauro? Forse perché tu non sei un ma sei peggiorato, ti assicuro che prima eri meglio. Quando intervenivi ogni tanto eri almeno più pungente, eri più così. Sai tu di bello, che per me è brutto, che sai cercare di girare la pagliotta, ma che io non ti sto dicendo cazzate, e tu lo sai. Ma tu fai di tutto per occultarle. Sì, beh certo, questa. Vabbè, Mauro. Allora, Cruciani, allora ti faccio una domanda semplice. Dimmi, caro, dimmi. Quando prima gli hanno detto nell'intervista che ho visto in TV, no? Sì. Che ho visto in TV, penso che con 24 poco fa. E dicono, ma lei allora è contento che abbiano fatto gli attentati? Sì. Allora gli hanno chiesto un Islam, che lui ha detto, no, sono mai contento. Allora, se tu ti vai a vedere. Il filmato di Koulibaly, quello nero, cos'è Koulibaly, come si chiama? Sì. Che io per il cognome... Beh, si è capito che non hai molta dimestichezza. Vabbè, allora... Ma non importa. Sai cosa ha detto nel suo video? Che ha detto? Ma voi ebrei che avete il grano, pensate di andare a fare le guerre e che poi non vi torni più indietro, niente? Vabbè, allora... Io ho fatto le guerre da 60 anni, Francia e America! E allora, chi ha fatto la guerra a Gheddafi? 3-4 anni fa, certo napolitano, il prossimo stentato sarà in Italia, ricordatelo! Ma perché? E sarà o prima capisco o la il legame, ma siamo vedrai, vedrai se non dico cazzate! Vedrai! Prima di Pasqua, dopo Pasqua, vedrai che fanno l'attentato, te l'hanno già ma detto. Ma tu alla fine? Video. Vabbè, Mauro, al di là di queste cose qua, te l'hanno già detto, perché tu, se pesti i piedi a uno, prima o poi te lo fa pagare, ma lo volete capire? Gli ebrei da 100 o 200, 2000 anni pensano di andarsi a prendere le cose degli altri, in più dunque tu sei contento? E in più umiliarli. Oh, bello! Ma che c'è anche le altre persone che vanno rispettati, bisogno rispettare solo loro, perché loro la sua poverina. Ma scusa, ma che c'è? Se poi vanno a ammazzare ma i bambini palestinesi, vanno a ammazzare i bambini palestinesi, vai nella spelonca. Mauro, scusami un attimo, abbi pazienza, adesso ti lascio, ma io voglio dire una cosa, caro Mauro. Ma dunque quando hai visto quegli attacchi, sei stato contento? Oh! Io, se c'è un ebreo che ce l'ho al nord, io vado al sud. Ma che c'è? Vabbè, ma questo qua nessuno. Io credo. È una brutta persona. Ma è che c'entra? Malafede. È in malafede. Vabbè, Mauro, ciao. Ti saluto. Si prenderà una di quelle denunce. Guarda. Ma tu puoi fare quello che vuoi. Ah, sì, perché c'è uno istruito in ebreo, cos'è? È vilipendio che cazzo. Ma cosa c'entra qui in questo caso? Cosa c'entra? Un povero idiota, un povero idiota. Hai diritto tutti alla vita. Ormai. La vita di tutti. Vabbè, la vita di tutti, benissimo. La vita di tutti. E loro cosa pensano? Un pazzo, le banche di fare quel cazzo che vogliono. Ma c'ho un ospite qua vicino che... Mauro, stai calmo però. Non capisce se... E ci permettono pure di fare le vignette e prenderli per il culo. Io se ero il terrorista, non ne restava uno! Di chi? Non ne restava uno! Di chi? Ero là! Di chi? Non ne restava uno di chi? Quando sono andati là. Là dove? Dove? Non sai parlare? Là dove? Fidati che nel supermercato, sì. Lo prendono e lo fanno. Ho capito, tu sei a favore del fatto che uno è andato lì al supermercato e trucidato. Fidati che questa volta lo portano via, veramente di peso. Il Mossad is coming. Non hai capito il discorso? Mossad is coming. Il Mossad arriva, il Mossad. Buttalo via la chiave, guarda questo. Lo prendono e lo sbattono in galera, finalmente. Musulmani. struttura sanitaria protetta. Ho capito. Hanno esasperati i musulmani. Sai che cosa ho scritto sul mio telefono, Mauro? Sai che cosa ho sul mio telefono? Ma non mi hai fatto un cazzo. No, ma te lo dico io. Sì, lo so che non te ne fotte nulla, però vedrai quando arriveranno lì se te ne fotte o no. Keep calm, Mossad is coming. Mossad is coming. Sì, ma dei piccoli agenti magari, come dire, in mentre sonno. La polizia italiana magari no. La polizia italiana magari lo prende, lo preleva. L'anno scorso un mio collega si è suicidato. È vittima di quella crisi e hanno architettato a Wall Street Madoff e tutta la complicità. Ah, tu dici è colpa degli ebrei se uno si è suicidato in Italia, vabbè. Mauro, che cazzo sono le banche? Ciao. Addio, Mauro, ciao, che finalmente ciao, ti prenderanno, ciao, va? Ciao. Ti metteranno un po' al fresco. Allora, già pronto un ospite accanto a Parenzo in quel di Strasburgo. Qui a Strasburgo. Aspetta un attimo, un paio di ascoltatori dobbiamo fare. A 45 attacchiamo. A Sherry Torino. È qui che sorride. Vabbè, sorride molto perplessa. No, ride perché è una persona spiritosa e ironica. Ascheri. Ma anche, come dire, agghiacciata da quello che ha sentito. Ascheri Torino. Ascheri, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Le volevo dire solo una cosa, essendomi musulmano, naturalmente non arabo, ma un musulmano europeo, essendo albanese. Sì, però abbassate sta radio di ritorno maledetta che avete lì. Non ne ho nessuna radio d'intorno, l'ho spento la radio. Dai, non ho dimmi. Nessuna radio. Allora, il problema è qua, nel momento che uno dice che praticamente queste persone lo fanno nel nome di Allah. E lo dicono loro, non è che lo dico io, lo dicono loro. No, per carità di Dio, ma anche se lo dice una persona, non è che è così. Ma come allora, non è così? Ma lo dicono, dicono Allah è grande, così. Come dice Ferrara, ma che cazzo devono fare di più oltre a dirlo? Su. Ho capito, allora, una religione si basa su una teoria, sia quella cristiana, quella ebraica o quella musulmana. Quella teoria che viene da noi dite che è il Corano, che è Torah per gli ebrei. No, non è il Corano, va bene. Allora non c'entra niente. Il Corano non c'entra niente i musulmani. Sono solo pazzi. Sono solo pazzi che prendono spunto dalla Bibbia o prendono spunto dai libri per i bambini, dal Cappuccetto Rosso. Facciamo che il Cappuccetto Rosso è l'ispirazione di questi qua, va bene? Caro Ascheri, tu di che religione sei? Ascheri, di che religione sei? Musulmano, sono musulmano. Sei musulmano, benissimo. Mi dispiace per te, ma dentro il Corano evidentemente c'è qualcosa. Ma lui ha ragione a sentirsi indignato, perché chi usa il Corano per fare degli attentati chiaramente è un integralista pazzo scatenato, ma la maggior parte dei musulmani che invece, come questo signore che ha telefonato, ma scusa, è ovvio che Fammelo sentire un attimo, dai. Indignato. Vai, Ascheri, vai. Ho capito. Cruciani lo vuole capire che praticamente sono dei contesti storici in cui diversi versetti del Corano sono scesi. Certo, sono versetti assolutamente. Allora, la condanna di morte c'è nell'Islam, ma bisogna capire in quale contesto c'è quella condanna di morte. Perché se una persona va a ammazzare, nell'Islam gli dice, se i familiari di quella persona che sono stati ammazzati lo perdonano, allora sì, prima viene perdonato anche quello che ha fatto il crimine. Dunque io non ho capito qual è la tua, al di là dell'interpretazione sui versetti dell'Islam, eccetera. Al di là della interpretazione, Cruciani, questo è il punto fondamentale. Non mi può dire al di là della interpretazione, perché viene fatto un casino. Ti posso citare anche interpretazioni completamente diverse. Va bene, Ascheri, allora? Dipende dall'italiano, perché in italiano un Corano praticamente sono stati tradotti 5 e sono stati bocciati tutti 5, perché probabilmente la traduzione non è stata fatta nel modo corretto. Vabbè, dunque tu ti senti offeso da che cosa? 15 milioni di parole. Va bene, ti senti offeso da che cosa? Ti senti offeso da che? Mi sento offeso nel modo in cui lei lo dice praticamente. Che sia loro fanno praticamente questa cosa in nome di Allah perché sono scritto nel Corano oppure fatte dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questa cosa non è vera. Benissimo, vuole capire che non è vera. Non è vera, d'accordo, è vera. Grazie. Anche se lo dice una allora se uno semolo va a fare ammazzare 10 persone, 12 persone, che colpa ha il profeta Muhammad? Oppure che colpa hanno 1.600.000.000 di musulmani che sono nel mondo? Grazie. Figura. Accanto a Parenzo, e non poteva essere altrimenti, anche se ci sono stato accanto anch'io. Se Cécile Kyenge, ex ministro della Repubblica Italiana, europarlamentare del Partito Democratico. Buonasera, buonasera. Buonasera Cucciani, oggi ho portato anche i fazzoletti di carta, quindi non mi fregate oggi. Che è successo? Ridere, dice. Sì. Ah, i fazzoletti di carta per le lacrime, le cose non succedono mai due volte allo stesso modo. Oggi invece chi ha pianto è quel signore che le dovrà dare 150.000 euro. A proposito, ma lei sta diventando, lei sta per diventare, non dico ricca perché non è che 150.000 euro sono una ricchezza, però il signor Ranieri, mi sembra di capire, il signor, dov'è qua sta roba di Ranieri, un leghista, disse, fece sul suo sito Facebook, sul suo profilo Facebook, vicepresidente del consiglio regionale dell'Emilia Romagna, che cos'è che fece signora Kyenge? Ecco, aveva fatto una caricatura quando io ero ancora ministra, riprendendo la mia fotografia con la testa, sostituendo la mia testa con quella di una scimmia. Esatto. Il bello è che adesso glielo faccio ascoltare. Noi quel giorno lo intercettammo per telefono, il signor Ranieri, se non sbaglio. Non chiese scusa. No, non solo lo chiese, disse no, ma chi l'ha detto che era la Kyenge? Ma noi dicevamo, scusate, scusi signor Ranieri, è uguale alla Kyenge. Come fa a dire che non è, persino io gli dico, Ranieri è la Kyenge, non si può negare, uguale nel senso che aveva preso la mia fotografia. La stessa fotografia, ha sostituito la testa. Beh sì, certo, la testa era stata sostituita da quella della scimmia, non era uguale. Lei non ha la faccia, diciamo, Luciani ha tanti difetti, bisogna essere precisi. No, io ho tanti difetti, però devo dire la verità, la posso criticare per quello che dice, per quello che è, eccetera, però francamente io non l'ho paragonata mai e non la paragonerò mai ad una scimmia vita mia. Le faccio sentire le linee di quello che disse ai nostri microfoni. Condannato oggi a pagare 150.000 euro questa persona in primo grado, non so se i soldi siano già arrivati alla signora Kyenge o se arriveranno, adesso me lo spiegherà, per aver raffigurato sul suo sito Facebook la signora Kyenge con la faccia di una scimmia. Sì. Perché dici che quella foto lì non è della Kyenge, quella che hai pubblicato? Perché non è la Kyenge? C'è scritto il nome della Kyenge. Vabbè, ma che c'entra adesso? Scusa, Ranieri, dai. Ma è chiaro, basta che vai su Google e fai Kyenge, spunta quella foto lì tra le prime. È chiaro che è la Kyenge. E chi ce l'ha messa? Ce l'ho messa io? I soldi arriveranno, 150.000. Io devo dire la verità, cara Kyenge, io trovo, lei non sarà d'accordo, trovo che... per carità, è una roba magari offensiva. Troppo pochi, secondo me. No, troppo come pochi, troppo pochi? Secondo me, è eccessivo. Dai, 150.000 euro per aver messo una roba del genere, che è assurda, per carità, ridicola. La dignità delle persone non ha prezzo. Sì, la dignità e l'offesa. Che ci facciamo con questi soldi? Cioè, non so su che cosa non è d'accordo Cruciani, però credo che in questo momento l'Italia deve cominciare a dare anche dei segnali molto forti, se no uno si sveglia la mattina e qui non si può nemmeno parlare di satira o quant'altro, perché non è che contestava le mie idee, cioè lui rappresentava una persona all'interno dell'istituzione con la testa di una scimmia, come per dire è un animale, cioè è un'offesa molto pesante. Le ha dato dell'animale, in realtà voleva fare un paragone. I neri sono uguali alle scimmie, è ancora più grave, cioè nel senso che non attacchi soltanto una persona, ma attacchi praticamente tutti i neri, e lo trovo ancora più grave. E il danno che lui ha fatto è per quella proprio che sto dicendo, non so su che cosa non sia d'accordo Cruciani, perché mi sembra 150.000 euro una cosa un po' eccessiva. Uno dovrebbe, tra l'altro, un anno e diversi mesi gli hanno dato, gli hanno dato un anno e tot. Cioè, per me, nel senso che bisogna che comunque ci sia anche una consapevolezza su ciò. Secondo lei dovrebbe per esempio dimettersi da, tra l'altro è la sua regione, dovrebbe dimettersi dalla parlamentare là, che sì, consigliere regionale dell'Emilia Romagna? Quando uno quando uno rappresenta un'istituzione deve avere rispetto anche del proprio ruolo. Cioè, questo tema io l'ho sposato dal primo giorno che ero andato al governo e continuo a dire che è così, e la mia proposta era, guarda, io direi anche un po' anche di lavori socialmente utili non sarebbero male, Che dovrebbe fare, tipo di giardinetti, sì, magari a casa mia, cioè pulire, certo. Pulire vada, in... vada a pulire, brava Kent, vada a pulire, venga a pulire, cioè, ragazzi, state per... senso, adesso no. Qui siamo, andiamo sullo scherzo, sì. Però beh, insomma, volevo scherzo, dire non solo, dice, non cioè, solo si dovrebbe potrebbe... dimettere, non solo si dovrebbe ho dimettere invece. Non solo si... aspetta, andare... non solo si dovrebbe costruire dimettere una moschea, potrebbe andare a aiutare, ma che c'entra, ma mica islamica, mica islamica la Kent, il punto è questa, lui ha paragonato non soltanto una persona che certo. Era all'interno dell'istituzione, praticamente tutti neri. Io li farei fare i lavori socialmente utili proprio nelle comunità dove lavorano i neri, magari li conosce un po' meglio. Bravo. E capisce che c'è una bella differenza tra una persona nera e una scimmia. Cioè, questa, se lui non l'ha capito, è che si scusa con delle cose diverse dicendo chi l'ha detto che non sia la Chieng. No, quello era ridicolo. Allora, quello era quella ridicolo. Fotografia, quella fotografia era lei riprende. Tra i banchi del governo, era lei nei banchi del esatto. Governo. Esatto. Avete mai visto una scimmia seduta sui banchi del governo? Beh, questa è una domanda un po' retorica, non la può porre. Va bene, va bene. Questa è molto buona. Sì. Allora, 150... mi sono portata a posto i fazzoletti di ha già le lacrime, ha già le lacrime. Avete però mai visto voi una scimmia seduta sui banchi? fa le battute e ride da sola. Sto bene, hai già ragione. Ma allora, perché voi le provocate, no, insomma? Io voglio dire una cosa, signora Kieng, 150.000 euro, no? 150.000 euro, ma sì. Che ci facciamo con questi soldi? Pochi. Si rifà la casa, si rifà una bella ristrutturazione di casa, che ne so. Ma che casa? Bisogna proprio... Che bisogna proprio mettere a disposizione delle persone che lui ha insultato e in neri appunto vorrei farli vedere che quelle persone hanno la possibilità di studiare. Vabbè, neri, genericamente così, che ci vuole fare con questi soldi? Ma li ha già incassati innanzitutto questi soldi o no? No, la sentenza era quella di oggi, insomma. Vabbè, poi di solito c'è la... Sì, farà e poi voglio solo ricordare, no, voglio un pochino andare oltre perché non ho finito il mio ragionamento di prima sul perché io ritengo che insomma lui non abbia, cioè deve comunque poi quella condanna per me sia giusta, perché i danni che lui ha fatto non è che si riferiscono soltanto alla Kieng quando era ministra, cioè quelle si riferiscono a me come persona e a tutti che i quando neri. Uno va a cliccare su internet e clicca Kieng scimmia ritorna roba. E non finirà quest'anno, non finirà l'anno prossimo, ma mi ogni porto dietro, cioè, subirò danni per... sono dei danni che non si fermano al presente, sono dei danni che una persona si porta lungo vabbè, tutta ho capito, la vita, ma sto Rainieri adesso con tutto il fatto che ha fatto una cazzata, che gli vogliamo fare? Lei ha detto pagare, 150.000 euro in più i lavori socialmente utili, si deve dimettere dal Consiglio regionale dell'Emilia Romagna e che vogliamo fare ancora? Lo vogliamo stuprare? Che vogliamo fare? No. Lo vogliamo impiccare? No, cioè, lo vogliamo appendere? Vorrei comunque evidenziare una cosa molto... Io in questo processo sono andata avanti da sola pagandomi un avvocato non sono stata sostenuta da nessuno, come il signor Ranieri è stato sostenuto dal suo partito che si chiama l'avvocato di Ranieri pagato dalla Lega Nord. È l'avvocato della Lega Nord. Io sono andata avanti da sola. Vuol dire che la Lega Nord difende ha fatto una questione politica mandandogli l'avvocato suo. Voglio capire, secondo lei la Lega Nord è un partito dopo questa condanna, dopo vari episodi, dopo questa condanna ti sto proprio spiegando perché io posso dire che la Lega è un partito razzista, perché se tu sostieni una persona che porta avanti questo tipo di linguaggio, questo tipo di pensiero, con o lo difendi anche con l'avvocato, vuol dire che proprio ne condividi anche il pensiero. Senta, se il giornale francese Charlie Hebdo avesse fatto una vignetta su di lei come una scimpanzé o altro, avrebbe riso o avrebbe denunciato? È un po' diverso, tirava fuori anche dei temi per sensibilizzare. Qui siamo andati sul personale, ma molto pesante. Beh, anche loro vanno sul personale, ma Maometto è ritratto anche col culo di fuori. Cioè qui il tema è un altro. Io comunque non sono andata a sparare su Ranieri, io sto sensibilizzando le persone a poter dire rimettiamo in discussione alcuni temi e ne parliamo. Non ho sparato a nessuno, ma sto dicendo è un tema politico molto importante. Per cui sono andata avanti anche da sola. Allora consideriamo il fatto tema, che la l'avvocato non gliel'ha pagato il PD, ti sta non me l'ha pagato il governo, ma sono andata avanti da sola perché vorrei che questo tema. Ma di che religione è, signora Chiang? Io sono cattolica. È cattolica. La sua famiglia, là, la sua numerosissima famiglia, di che religione è? Cattolica. Tutti cattolici in Congo? No. Che sono? Animisti? Che sono? Bantu? Che sono? Ma no, più del 50%, una percentuale abbastanza alta in Congo è cattolica. Poi ci sono altre religioni, protestanti, poi c'è l'animismo. I musulmani arrivano a malapena al 5%. Un attimo solo, fermi tutti, del paese. Fermi tutti, pubblicità, poi torniamo con Ceci Chien. Ottima trasmissione, sempre la migliore. E ancora a casa siamo. Allora, un leghista Ranieri condannato a 150.000 euro, ma li darà in beneficenza questi soldi per avere pubblicato una foto con la forma di una scimmia. Al posto della faccia della Chiang c'era una scimmia. Io non ho capito con questi. No, se dovessero arrivare. Un progetto preciso. Se dovessero arrivare questi soldi, li diamo a una cosa per l'integrazione dei neri, per che cosa? Io in realtà avevo già deciso deciso di darlo a un bambino, un minore non accompagnato che non ha i genitori, quindi e che è molto intelligente, purtroppo un non bambino? Ha nessuno per già identificato? Sì, ma non, per la privacy non posso dire. Vabbè, un minore che non ha genitori. Un minore non accompagnato. E sono tanti, quindi, però questi soldi, 150.000 sono tanti, oh. Che dobbiamo? Bisogna investire per il proprio futuro, dall'istruzione alle scuole superiori fino all'università. A un bambino senza genitori. Senza genitori. Però devo dire la verità, non è un'offesa, però, perché futuro garantito. Perché un'offesa? Adesso, se proprio uno vuole fare una provocazione, gliela faccio subito. Perché è un'offesa essere ritratti con il volto di una scimmia? In fin dei conti, no, ma io adesso, se uno vuole andare fino in fondo, io capisco poi lo. No, capisco l'intenzione di offendere, e questa la capisco. La difesa della razza si chiamava, una rivista diretta da Telesio Interlandi e da un signore che si chiamava Almirante. No, però io. Ti ricordi? Sì, però io voglio dire una cosa. Difesa della razza rappresentava in copertina quella roba lì, faccia di una scimmia, la difesa della razza. Ho di capito, Almirante, però. Che c'è qualcuno a cui vorrebbero intestare pure la via ad Almirante. È evidente che noi veniamo da scimmie, no? Noi esseri umani, tutti. Cruciani, non credo che aveva dipinto tutti i ministri di quell'epoca con la testa da scimmia. Non c'è dubbio su mi dica questo. Lei, Cruciani, se ma era no, così. No, non o c'è se dubbio. Aveva dipinto. Lei si vergogna ad assomigliare, non dico ad una scimmia perché non è che assomiglia ad una scimmia, però ad avere una conformazione fisica che ricorda i nostri, no? Quelli che sono nati insieme a noi, quelli che sono stati creati insieme a noi. Nessuno si vergogna di questo. Io non mi vergogno assolutamente a venire dagli ominidi, insomma, da una scimmia, anch'io vengo dalle scimmie. Cruciani, allora secondo me bisogna stare anche molto molto molto attenta, perché un conto è andare a studiare la storia. Io lì facevo il ministro per l'integrazione, di certo non facevo una lezione di storia in cui insegnavo alle persone che provengono dalle scimmie, quindi lui poteva anche fare una satira per dire, insomma, rappresentare ciò che stavo dicendo. Io facevo il rappresentante dell'Italia all'interno delle istituzioni. Vabbè, lui ha dipinto la mia testa ha sostituito la mia testa con quella della scimmia. Senta. E non ha soltanto insultato la sottoscritta, ma tutti i neri. E credo che qui la cosa più grave è proprio l'istigazione all'odio e al razzismo. La interrompo un attimo perché Cristiano Ronaldo ha vinto il pallone d'oro per l'ennesima volta, forse non è nemmeno una notizia, del 2014. Allora, le voglio dire una cosa. A proposito di neri, adesso c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, lei non voterà perché è al Parlamento Europeo, ma non le piacerebbe prima o poi, prima o poi, che ci fosse in Italia un Presidente nero? Beh, certo. Beh, sì, Cruciani. Guarda, io sogno questa tutti i giorni. Ma veramente? Però il giorno che io ho messo questo tweet sul mio... Ma quando? Anzi, ti dirò di più. Cioè, ho messo questo tweet alcune settimane fa in cui dicevo, se c'è stato un sollevamento così per la prima ministra nera, io mi immagino cosa ci sarà per il primo presidente nero. Cioè, lei spera che prima o poi, magari anche questa volta, ci sia un presidente nero? No, però la cosa che mi dispiace è che tra tutti i nomi proposti non c'è, cioè non è proprio nero come colore della pelle, no? Ma magari anche qualche proposta, no? Nel Toto, cioè nel... Sì, nel Toto Quirinale non si fa mai. Una cosa di nomi dovrebbe essere. E chi ci potrebbe essere, secondo lei? Una persona con origini straniere, no? Cioè una... Chi vedrebbe bene? Anche un Mohammed, ad esempio, che si chiama Mohammed. Oggi sarebbe forte. Un islamico al Quirinale. Oggi sarebbe forte. Un islamico, lui si chiama Mohammed. Sì, non dimentichiamo che esiste un Obama, Barack Obama, presidente degli Stati Uniti. Dunque, Barack Hussein Obama. Barack Obama, che insomma tante volte sbagliando il nome, insomma. Per cui primo... saremo pronti. Secondo lei gli italiani oggi sarebbero pronti? Se anche rosa anche di un nome, presidente. Secondo me, Mohammed. Io non dico nominare un presidente in questo momento. Almeno nella nomina, insomma, in questo elenco, nella rosa dei nomi, avere qualche nome di un anche musulmano, sì, ma credo che in questo momento sia molto difficile perché il clima è avvelenato, La Lega come si comporta la Lega in questo clima? Sono un po' sciacalli o no? Beh, in questo momento io dico che in questo momento la Lega sta facendo il gioco dei terroristi perché il gioco dei terroristi. Continua. Sì, perché continua a fomentare la paura in mezzo alla gente. Noi non dobbiamo cedere davanti alla paura. È alleata dei terroristi. Non è alleata dei terroristi. Però sta facendo il loro gioco. Butta benzina. Sì, perché i terroristi cosa vogliono? Loro cavalcano proprio questa. Vogliono dividere le persone, la paura. Ma lo sapete, la maggior parte delle persone che poi finiscono in quelle file sono le persone che sono emarginate. Le persone che si sentono... Pure lei pensa... Molte delle persone si sentono emarginate e vanno a trovare una risposta dove qualcuno per gli promette basta, il paradiso. Basta eliminare l'emarginazione o comunque... No, non è tutto. Cioè non è semplicemente basta per cui l'Islam non c'entra, l'Islam non c'entra. Guarda, secondo me, Cruciani, ho sentito un po' anche la discussione di prima. Io condanno l'integralismo islamico per un motivo. Perché non dobbiamo pensare che... E faccio esempio, io sono medico, sono medico oculista, quindi le faccio l'esempio nel settore che conosco meglio. Quando noi abbiamo un tumore nel nostro corpo, non è che diciamo che l'intero organismo è malato, ma cerchiamo di estirpare quel tumore, perché la parte è malata. Allora, perché noi in questo momento dobbiamo dire che l'integralismo islamico rappresenta l'Islam? Beh, perché lo fanno, per esempio, quelli ammazzano in nome del Corano, per esempio, in nome di Maometto, in nome del Corano. Comunque, vabbè, è una discussione molto lunga. Ma faccio l'esempio proprio del tumore, cioè un'ideologia malata, degenerata, è su questa che non dobbiamo perderci di vista, cioè non dobbiamo farci confondere le idee. Senta, se Salvini diventa il leader del centrodestra, lei che fa? Si ammazza, che fa? No. Scappa. Cioè, il centrodestra sceglierà pure chi vuole, anche se non è che io mi sento rappresentato da, per fortuna avete detto centrodestra non centrosinistra. Cioè il centrodestra dovrebbe scegliersi però un leader diverso, secondo lei? Ma per quanto mi riguarda, sì, perché in questo momento noi abbiamo bisogno di dialogo, abbiamo bisogno di persone che. E invece questi fomentano tutto. Meglio Berlusconi di Salvini? Tutta la vita lei dice. Ma no, cioè, Parenzo. Meglio Berlusconi di Salvini. Diciamola così, meglio il Berlusca di Salvini. No. Ma come no? Io sì in questo momento sto dicendo. No, né l'uno né l'altro per me. Cioè, nel senso che io in questo momento. Ma che male le ha fatto persona, Berlusca? Che male le ha fatto il signor Berlusca? Salvini, Berlusca. Berlusca, che fine? Parenzo, Cruciani. Parenzo, Cruciani. Vuole, amica mia. Senta, io non ho capito una cosa, poi chiudiamo. Insomma, mi confondete le idee. Io non ho capito una cosa. Un bel presidente nero adesso sarebbe l'ideale per l'Italia, un presidente della Repubblica nero, si può dire, sì. Vorrei un presidente nero. Diciamola sta cosa, su, diciamola. Vorrei un presidente nero. Oh, un presidente nero. Può fare anche qualche perché nome. Perché no? Cioè non vengono i nomi fuori, insomma. Sì. Un presidente ma nero. Ma dove stanno sti neri per fare e il presidente? Poi, cioè, no, Cruciani, si candidi dico, lei. Se si da domani lei, la mia pagina Twitter o Facebook aumenta di attacchi, lo sapete che perché ho detto voglio un presidente, presidente nero. Nero. Voglio un presidente nero per l'Italia. Vabbè, d'accordo. Magari pure islamico. No, ma sarebbe magari anche islamico. Di un paese normale, un paese. Anche un presidente, magari anche islamico, no? Questa l'ha aggiunto lei, Cruciani. No, io sto dicendo. Io. Cominciamo vabbè a parlare delle diversità. Ma delle lo sa, io no, ieri stavo no parlando con. Ma lei si immagina sì, lo spoglio no, delle parlavo schede? Parlavo qui con Parenzo. Lo spoglio delle schede, chi è? Lei se la immagina lo spoglio delle schede, no? Chi è? Dove a un certo punto c'è, che so, Rodotà, Zagrebelski, Mohammed, Mohammed, Mohammed, Zagrebelski. Cicchitto, Mohammed Idris, Cicchitto. Idris cioè, presidente no, della Repubblica. Io vedo già chi cadrebbe d'infarto là dentro. Chi? Ah, chi? Cioè. Chi? Tutti quelli della Lega, dico, no, non è possibile. Morirebbero di infarto. Metti che viene eletto un presidente nero, va, tutti morti di infarto. Vabbè, grazie a Cecil Kyeng. A presto, grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Ce la faccio, io non vi supporto, è un programma brutto, è brutto. Stefano Pisa, buonasera. Buonasera. Vai. Dopo Salvo Mandalà e Mauro, no? Mario. Mauro da Mantova. Avete trovati stasera? Beh, chiamano loro, mica facciamo apposta noi, eh. Allora? Insomma, proprio un bel lavoro, uno che sa tutto lui, che ha trovato la formula magica per capire se uno gli hanno sparato, se è vero, se non è vero. Pensavo che dopo Parenzo di venerdì sera, che dava completamente ragione a chi? A musulmani, che lui ma è... Ma su che cosa contro... dava? Su che cosa? No, cioè, dava ragione a loro, ma venerdì sera proprio era fuori di testa da una parte, perché era completamente schierato, come quando prende le difese dei Rom, uguale identico. Non vedeva solo la parte opposta a quella che pensiamo noi italiani. Vabbè, poi? E basta. Era solamente, cioè, lei voleva dire, è intervenuto per dire che Parenzo venerdì sera leccava il culo, così sostanzialmente, no? No, non leccava il culo, aveva preso la difesa quando parlava col presidente del comune di Padova, colleghista, sì. Era completamente chiuso nel ragionamento di dargli contro in tutto e per tutto. Ma perché tutto. Io distingo i musulmani fondamentalisti da quelli moderati? Perché sennò bisogna dichiarare la guerra in Francia a 5 milioni di musulmani, in Italia no, 1,5-2 milioni di persone. Non bisogna dichiarare guerra, sarebbe nessuno. Follia. E allora no, di chi parlate? Non bisogna dichiarare guerra a nessuno, bisogna che ognuno stia nel suo posto. Noi italiani stiamo nel nostro posto e ragioniamo con la nostra idea. Parte loro molti nel suo, ma i pazzi fondamentalisti, molti, le faccio presente, sono convertiti. Molti dei pazzi fondamentalisti che si sono resi protagonisti in questi ultimi anni, ma non di è vero, agghiaccianti, ma... vai a verificarlo. Alcuni sì, me lo sono appuntato. Come alcuni? Alcuni quelli sono che sono andati a combattere con alcuni, quel matto. Ma, cioè, sono Baghdadi, ma ci sono migliaia, alcuni sono califo, convertiti, ma non è che quel tutti pazzo sono sanguinario neonazista di califfo lì virtuale, sì, sono vabbè, convertiti. Ma ci siamo tutti, sono vabbè, tutti convertiti, siamo, chi è andato in guerra, in qualsiasi parte del mondo è andato in guerra. Fatemi sentire Lazar, ciao Stefano, Lazar Brescia, Lazar, come diavolo ti chiami, Lazar, dimmi. Lazar, non è che diavolo, vai. Lazar. Allora, Salvini è nato proprio per provocare la provocazione, la sua menzione. Quale? La missione. È meglio per il ragazzo Salvini che si informa un po' concerne la religione musulmana, o almeno andare a comprare un paio di libri per avere maggiore informazione della religione. Vabbè, Lazzaro, io però ti voglio chiedere una cosa, al di là delle tue critiche nei confronti di Salvini, che sono abbastanza evidenti, ma sì, scusami un attimo, io perché non posso disegnare Maometto pena essere perseguitato e magari anche ucciso? Perché in teoria, secondo il Corano, non puoi raffigurare nemmeno Maometto, perché? No, non è a questo punto. Ma come non è a questo punto? È a questo punto. Allora, capiamoci un attimo, la mass media sono esagerate un po' con queste storie. Ma non è vero che la mass media sono esagerati, non è vero. Oggi alla manifestazione di Parigi ha partecipato anche l'ambasciatore dell'Arabia Saudita a Parigi, negli stessi momenti in cui in Arabia Saudita veniva punito con non so quante frustate, bastonate, eccetera, eccetera, blogger. Ma non esistono queste cose. Come non esistono? Esistono. Viviamo, ascolta Cruciani, ma viviamo dove? Ma di che stai parlando, Lazar? Ma quelle lì sono integralisti, ma quello che ma l'Arabia Saudita è uno dei nostri principali alleati, tra l'altro, per cui cioè, è quello che succede, esattamente quello che succede, l'ipocrisia ovviamente anche dell'Occidente, di chi ha partecipato per esempio alla manifestazione dell'altro giorno, di ieri esattamente, perché l'ambasciatore dell'Arabia Saudita ha partecipato alla manifestazione, ma il suo paese, negli stessi istanti in cui lui partecipava alla manifestazione, non muoveva un dito per la punizione severa di un blogger che voleva, come dire, raccontare una Arabia Saudita diversa, di un blogger interno al paese. Per cui di che, Lazar, ho dei dubbi sul fatto che esista un Islam moderato, capito? Io ho viaggiato un po' agli paesi arabi, allora, anche gli amici che lavorano lì all'Arabia Saudita, non esistono queste cose, è impossibile, e continuano gli mass media, le donne sono inferiori, i musulmani sono inferiori, invitate per favore. Ah, non è vero, non è vero, le donne... No, ma non è vero, io qua c'è la mia moglie qua che andrà tutti i giorni a fare la spesa, ci scherziamo, ci andiamo anche fino ma certo, a... che c'entra? Le spiagge ogni tanto, non è vero, siamo musulmani anche. Ma che c'entra? Dai, un po' di rispetto ci vuole anche alle religioni, perché le religioni sono le religioni. Io rispetto tutte le religioni, comunque siamo contro queste condanniamo, siamo del centro. Vabbè. Qua. Loto, gente, Roma, Loto, da Roma, Loto, ma un nome normale c'è o no? Loto, Roma. Ciao Cruciani, buonasera. Senti, dimmi. Posso dire una cosa? A me mi sconvolge che non avete usato la parola guerra. Cioè, voglio dire, la Francia, ma in parte pure l'Italia, sono decenni che sta a bombardare questi territori. E allora? Niente. Quindi c'entra una logica di guerra. Cioè, voglio dire, no, cioè, siccome noi bombardiamo, loro vanno a colpire dei giornalisti, dei vignettisti. Questa è la logica della guerra, esattamente. Ma quale logica della guerra? Ma quando mai? Cioè, tu considera che ci sono stati oltre 200.000 morti civili in Iraq, Afghanistan, no? E allora? Che penso che per noi hanno lo stesso valore dei 12 francesi, o sbaglio? No, ma tu mi stai dicendo... Cioè, i morti sono tutti uguali, i morti civili sono tutti uguali, giusto? Sì, in generale i morti civili sono tutti uguali, bisogna vedere... C'è una differenza fondamentale, però. Da una parte c'è uno Stato... Sì. Da una parte c'è uno Stato che si chiama ISIS, che si è autoproclamato, no, che ha dichiarato adesso guerra all'Occidente. Lui sta parlando di altre cose. Vabbè, fermi e tutti. In guerra, come nella Seconda Guerra Mondiale, ci sono stati dei morti civili per liberare l'Europa dai nazisti. Questo è successo, certo. Traffico. Questo sto dicendole. Traffico. È passata abbastanza inosservata una roba introdotta. Posso andare dalla... in bagno un attimo? No, che bagno? Perché? In bagno, due minuti, posso? Ma no, ma che bagno? Aspetta, ti aspetta. Lascio qua un ospite, un secondo, vado in bagno, 30 secondi, perché... No, aspetta. E quando vado in bagno? Sto malissimo. Ma chi se ne frega? Aspetta. Pronto? Buon anno! Sono qua. Eccoci, dove sei? Ma togli il coso. Dove sei? Sono a Borgosesia, municipio. Al municipio di Borgosesia. Vieni a lavorare a Strasburgo, che sono qui a Strasburgo e non ci sei. Domani arrivo. Sì. Arrivalo. Ah, infatti ho visto i camion del circo, è vero, scusami. Ho visto oggi che stavano mettendo il tendone nel palazzo antistante, nel piazzale. L'ho visto, ho visto gli elefanti. No, sono arrivato oggi a Strasburgo, dovevi esserci anche tu. Non ti ho visto, sono entrato nello studio della radio dentro il Parlamento Europeo e fuori però ho visto dei caravan che scendevano degli elefanti, dei cammelli, guarda, eccetera. Guarda che domani arrivo con This una bella maglietta Circus di Maometto. Oh, bravo, domani bravo, arrivo. Ti porti dietro la maglietta del Parlamento Europeo. Come me, la maglietta di Maometto pure tu? Sì, metto sulla maglietta, ma me la sono fatta fare, stampare. Bella, tanto. Tu Maometto. Vabbè, sei contrario anche a questo, Parenzo, scusa, non ho capito. Si mette una maglietta, buon anno, domani all'interno del Parlamento Europeo, speriamo che ce ne siano altri, con una delle vignette. A che ora arrivi? Domani arrivo verso le 10. verso le 10 verso di mattina. 10 del mattino. Verso le 10 del mattino. Quando hanno finito di scaricare gli elefanti dal caravan, sì, d'accordo. No, tranquillo. Tu invece è strano che sei a Strasburgo, perché il Paglio degli Asini è solo a Saravalle. Valle Sese, provincia di Vercelli. Sì, no, ma ne hanno fatto ci uno. Ci mancava per il Paglio degli Asini. Sai, ne fanno uno anche qua. Ne ma fanno lo, sai, uno lo, sa, qua lo sapete, ragazzi, lo sapete che. No, però è insultante, posso dirtelo veramente, Giuseppe? Cosa? È insultante quello che fa questo deputato, insomma, questo onorevole. Perché è insultante? Insomma, spiega. Questo uomo che è stato eletto al Parlamento Europeo. Perché? È ma vergognoso. Che cosa è insultante? Non ho capito. Perché fa un uso, un conto sono i 12 di Charlie. Che hanno, come dire, una storia, vignette, satira. Ma perché c'entra? Che uno non può indossare un conto è la provocazione politica di un movimento che dell'odio anti-Islam ne ha fatta una cifra politica. Cioè tu stai dicendo, ragazzi, stai mettendo sullo stesso piano l'odio, secondo te, della Lega nei confronti dell'Islam. Togli il secondo me. Cioè, le parole che la Lega utilizza nei confronti dell'Islam sono parole di odio. Vabbè. Questo non è che lo dico io. Che cos'è per te l'Islam? Allora ti leggo una cosa del Corano. Leggi. Ecco qua, leggi il Corano. Uccidete, no, l'ho pure comprato, l'ho pure comprato, perché almeno so di che cosa parlo. Hai comprato Uccidete, il Corano? Sì, ho comprato il Corano. Uno anche perché magari poi potrei anche tirare via delle pagine se non sono, come io penso, giuste. Allora, cioè, vuoi strappare delle pagine del Corano? Adesso sto vedendo, però dove c'è scritto uccidete gli infedeli ovunque li incontriate, secondo me non possono dire che è una religione. Allora attenzione, buon anno, legge il Corano, musica un attimo, buon anno, legge tun tun tun tun, musica tun tun tun tun, buon anno, legge il Corano, vabbè, l'ho comprato, 14 euro. 14 euro costa il Corano? 14, no, ho preso uno bello, però con la traduzione, da una parte c'è lo scritto, dall'altra c'è la traduzione. Allora ho visto, uccidete gli infedeli ovunque li incontriate, io ho detto, ma sarà un caso. Poi, successivamente, trovi... Aspetta un attimo, vai. Carmina Burana questi qua. Vai, parti! Quando incontrate gli infedeli, uccideteli con grande spargimento di sangue e stringete forte le catene dei prigionieri. Allora, se questo è una religione per la pace, io mi chiedo qual è, cioè, allora... Tu mi stai dicendo che l'Islam è una religione violenta? Vabbè, se si leggono queste cose evidentemente sì, ma questi hanno un problema, i musulmani, che sono indietro di circa 1500 anni. Cioè noi siamo superiori secondo te? Certamente la superiorità sta nel fatto che noi ci siamo evoluti e questi sono fermi in maniera ferrea a 1500 anni fa su quello che diceva Maometto. Ma se uno, però sono cambiati, sono se cambiati, uno apre la è Bibbia, cambiato tutto. Ma se scusa, uno apre il Nuovo Testamento, le cose, trova delle cose che sembrano, no, non strane, è vero, non no, è vero. Miracoli, io però, molto curiose. Io però voglio dire una cosa, buon anno. Devi dirla fino in fondo. Allora, dichiara guerra ai 2 milioni di musulmani che sono in Italia. Ma io non dichiaro guerra, io ti dico sì, questo. Tu stai dichiarando guerra ai 2 milioni di musulmani qui da che sono noi. In i musulmani che vengono qui da noi, innanzitutto l'imam, quelli che si autoeleggono imam, parlano solo in italiano in Italia, non parlano ma arabo. Sei pericoloso, cioè, stai non diventando devono, pericoloso. Non devono... si capisce cosa dicono, bisogna parlare italiano, perché se io vado là non posso parlare italiano, no? Cioè, secondo te gli imam nelle moschee italiane devono parlare italiano. Stai dunque, diventando pericoloso. I musulmani che sono pericoloso in Italia devono sapere le regole italiane. È molto semplice. Ma scusa un attimo, una moschea a Borgosesa sarebbe possibile? Impossibile. Perché? Come perché? Perché io direi no, assolutamente, fra di tutto perché sia no, perché io sono un sindaco che cerca di mantenere le radici cristiane, di mantenere i nostri usi, i costumi, il nostro modo di vivere, quindi le moschee se le fanno da un'altra parte, per un quanto imam, mi riguarda. Un imam a Borgosesia, Parenzo, portiamo un imam a Borgosesia. No, ma ci mancherebbe altro, ma sta violando l'articolo 3 della Costituzione, qual è? Il cosiddetto sindaco. Perché? Quello sulla libertà di culto, vedo che non conosce neanche la Costituzione. Ma la libertà di culto, ma io mica dico di non aver la libertà di culto. Sta facendo sta dicendo che i sermoni vanno detti in italiano e non in arabo. Detto in italiano, uno poi è libero di essere e di seguire quello che vuole, ma lo dice in italiano. Siamo in Italia. E altrimenti che succede? Se e non lo fanno? Io ti dico una cosa, a Parigi ieri, a Parigi si devono vergognare quelli del Marocco, perché non hanno partecipato alla sfilata di cosiddetti grandi e più di tutta la gente che c'era, l'avete visto tutti. Dichiara guerra anche al Marocco. Non ha detto che quelli del Marocco non sono andati perché poi incontravano quelli che facevano vedere delle vignette che non andavano bene. Ma scusa, ma a questo punto, se uno sta a guardare le vignette o sta a guardare qualche altra cosa, allora è un disastro completo. Allora possono sgozzare i cristiani, possono uccidere le suore, possono uccidere questo? I preti, possono non mettere le chiese cristiane in giro, eccetera, eccetera, eccetera. Loro possono tutto. Senti, ma se viene trovato qualcuno che potrebbe sapere qualcosa, no? Cioè, se viene arrestato qualcuno, tu sei favorevole alla tortura? Io l'ho detto nel Parlamento Europeo, ripeto, io difendo la CIA per quello che ha fatto, perché nessuno ricorda più l'11 settembre, non ricordano più Madrid, non ricordano più Londra, cioè, non tu ricordano difendi più che cosa? Tante cose. Che cosa difendi? Quindi io vorrei che la Guantanamo che c'è ancora e che anche Obama, Nobel della Pace, aveva promesso che chiudeva e poi l'ha tenuta, ci fosse una Guantanamo italiana per chi c'è una Guantanamo anche in Italia. Terrorista sul nostro territorio, ci va nella Guantanamo italiana e ci sarebbe in che campa. Adesso con le basta, catene, con le catene. Basta con queste stupidaggini. Non aspetto niente. Aspetta. Perché loro, lui che dice queste puttanate al non Parlamento italiano, la quando si trattava di finanziare i turchi contro ISIS, hanno votato contro. Allora, voi al Parlamento italiano, quando il governo ha dato sostegno ai curdi contro ISIS, avete votato contro. E poi dite questo. Puttanate sull'Islam d'Italia. Io difendo il mio popolo per quello che posso. Io voglio capire una cosa, Gianluca. Tu pensi dunque che ci voglia anche in Italia dei campi tipo Guantanamo? Mamma ma ci mancherebbe, ma certamente sì. Guarda, se potessi farlo a Borgo Sesia lo farei domani mattina. La Guantanamo italiana ci vuole. E chi questi devono questo capire che chi sbaglia paga. E chi va dentro in questa Guantanamo italiana? Scusa, chi ci va dentro? Coloro che cercano di fare in modo che o hanno compiuto atti efferati o che comunque stanno tramando per fare attentati o per mettere sempre di più odio nella nostra società. E questi qua vanno a Guantanamo dunque dentro per ottenere informazioni, perché dovremmo creare questa Guantanamo italiana? Per far capire che non c'è il giochino, perché questo governo fa solo degli svuotacarceri. Vabbè, e Alfano e Renzi dicono tante belle parole, ma poi il risultato è che il nostro è un colabrodo unico, no? Dopodiché invece questi che sono islamici, perché poi il terrorismo è praticamente solo islamico e non c'è un'altra religione che fa questo tipo di terrorismo. Per cui tu creeresti dei campi tipo Guantanamo per mettere dentro sospetti, gente legata al terrorismo e ottenere così con la tortura informazioni. No, è pericoloso una persona così. La tortura può essere fatta nel momento in cui, per salvaguardare la nostra nazione, e allora a quel punto, se tu sai che questo sa delle cose, non parla, io sono favorevole alla tortura, ma perché vado a difendere decine di milioni di persone che sono gli italiani. Ho capito. Perché la guerra è la guerra, no? Perché loro cosa fanno? Sgozzano, ti fanno vedere il video, prendono la testa e la mettono sulla schiena, questi cosa sono? Parenzo, che c'è? Non può passare così, ma scusami, non puoi far passare una roba simile così detta da un deputato della Repubblica. Perché ma cosa non ha si detto? Può. Non ho capito, cosa un ha detto? Conto è il circo equestre quando viene qui con gli elefanti al cerchio di fuoco. Vabbè, radio così. No, non c'è, vabbè. Da una radio così importante, Guantanamo, incitare alla. Ma è una follia. Ci sta rendendo dei bersagli questo uomo. La Guantanamo europea farla in Italia sarebbe un bellissimo. Ma tu segnale. Sei matto, ma tu sei baccato in testa. Proprio. Ma perché no? Non ho capito, ma perché io non ho capito qual è il problema. Testa, perché questi signori sono gli stessi, guarda che è importante. Vabbè, quando si tratta di finanziare i curdi, no, i curdi che combattono contro il califfo. Un'ultima domanda, ma questa è una questione fondamentale. Già, l'hai già detto un'ultima ma è importante cosa. Però in Russia, ma caro, è matto. In Russia, caro Bonanno, non vogliono dare la patente ai transessuali. Perché, aspetta, i transessuali non potranno guidare. È stata introdotta una nuova legge che vieta la patente a chi è mentalmente malato. In questa categoria sono stati inseriti anche i trans, ritenuti feticisti e esibizionisti. Per cui i legislatori russi hanno proibito, la Russia che tu ami, hanno proibito la patente anche ai signori transessuali. Cosa dici tu? No, sì. Un argomento delicato. Delicato, qualunque cosa basta dica può sembrare. Guarda, in questo momento ti devo dire che la priorità è il problema è musulmani, islamici, Corano. Ma se tu incontri un islamico per strada, hai paura? Ma non io, praticamente tu. Quasi tutti, anche quei ragazzi di Kashyyyk di sinistra che si riempiono la bocca e poi in realtà fanno delle leggi delle balle, cioè, e se continuano tu a farle arrivare, qualsiasi, poi in realtà qualsiasi, paura. Qualsiasi islamico che c'è in Italia è pericoloso secondo te, potenzialmente pericoloso? No, questo qualsiasi islamico dicendo. No, fare di tutto in erba un fascio, no. No, però controllarli uno per uno. Ce ne sono una percentuale importante sì. che ci odiano. Ci odiano, cioè anche la gente che viene da me dal sindaco a chiedere gli aiuti, a tanti glieli diamo, quindi non, sì, non possono neanche tacciarmi di razzismo. Però io lo so benissimo che ci sono quelli che poi, finito di uscire dall'ufficio e vanno in piazza, poi dicono ci odiano, odiano l'Occidente, odiano come viviamo, odiano cosa facciamo. Questi sono ancorati, era il 500 quando viveva Maometto. Vabbè, ho capito, non è che puoi prenderli semplicemente perché secondo te ci odiano, prenderli e metterli nella Guantanamo. No. Se uno si comporta bene è giusto che stia qua. Ti abbraccio. Però non è che vengono loro qua e devono stravolgere noi. A presto. Sono loro che devono abituarsi a noi, non noi a loro. Ciao, vedeteli domani, tu e Parenzo a Strasburgo, forse con la maglietta. Ciao. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Ti prego. Oh, popolo della zanzara! Soprattutto le donne sono tante all'ascolto qui. Popolo della radio. Sono in bagno, guarda. No, sto male. Allora, siccome Valentina Nappi ha dichiarato di aver perso la propria verginità anni fa in un bagno con un pennone multicolor, 12 anni con un pennone multicolor. Io stento a crederci, però prendiamola per vera perché Nappi for president sempre. Ho perso la verginità a 12 anni in un bagno con un pennone multicolor. La prima questione che mi viene, l'abbiamo appena accennata la settimana scorsa, è questa: ma è possibile perdere la verginità con un pennone multicolor, magari di quelli della Bic? Adesso ogni volta che vedo in una cartoleria al supermercato, non so, una penna multicolor, penso alla Nappi che ha perso la verginità. Non so perché, penso solo a questo ogni volta. L'altro giorno ero con mia figlia, perché non ho detto nulla, all'Esselunga, non so dove. No, ti prego. Giuro. Ma sei malato. No, ma okay, mi ha indicato delle penne e ho pensato, ma no a lei ovviamente. Ho pensato alla Nappi immediatamente, alla Nappi. C'è un degrado morale. Proprio. Vabbè, io voglio capire una cosa da voi. Le donne, primo, se vi sembra possibile. Secondo, come voi invece avete perso... Magari un modo strano in cui avete perso la vostra verginità, ma sono tutte grandi sondaggi. Le grandi inchieste della zanzara. Ti prego. Le grandi inchieste. Come avete perso la verginità, voi donne? È strano che queste domande non vengono poste da Alino Milan la mattina. Strano che queste domande. Certo che ci piace un mondo così. Roberto da Modena. Buonasera. Allora io Dimmi. Telefonavo perché quello che ho visto alla televisione in collegamento da Parigi ieri aveva fatto venire la nausea. Io avevo visto questa sfilata di capi di Stato che sembravano un funerale, perché il presidente Hollande era sostenuto come se fosse il parente che ha perso qualcuno e lo sta portando al cimitero. Ed è la Repubblica Francese in questo caso. E si litigavano la Merkel, si litigavano chi doveva stare al centro. Cioè una cosa che indegna. Perché ma che cosa è indegno? Non ho capito. A me non piacciono le manifestazioni postume e le manifestazioni di solidarietà. Mi fanno orrore. È stato un grande momento per tutta l'Europa. Sì, è stato un momento. Quando era il caso di difendere? Quando era il caso di difendere? A parte che questi qua non erano protetti, cioè avevano ricevuto minacce. Ma chi te l'ha detto? Dov'è la protezione? Dov'è la protezione? No, ma che c'entra? Dov'è la protezione che avevano? Ci sono politici. Ci sono politici con le scorte. E questi che erano minacciati dall'Islam non avevano un cazzo di uomo intorno, questo è evidente, no? Questo è un problema del governo francese. Infatti sto dicendo di quello. questo va benissimo, polemica con il governo francese. Allora, vabbè, no, a parte questo, ma Roberto, cosa che ti ha fatto? A me tutte le manifestazioni postume di solidarietà mi fanno schifo, in particolare in questo caso. Un momento straordinario è stato, fondamentale. Vabbè, tu sei la retorica classica. Ma no, io 3 milioni, stai sputando in faccia a 3 milioni di persone che sono andate in piazza. 3 milioni di persone che giustamente si sono riprese la città con orgoglio, hanno sfidato il terrorismo. Questi sono gesti simbolici altissimi. Dici, mi fa schifo, non mi va. No, mi fanno orrore in generale le manifestazioni postume di solidarietà. Ci sono dei momenti emotivi per un popolo, per una nazione. No, vabbè, raccontati le solite cazzate. Ci sono, ma no, raccontali, dillo a quelle 3 milioni di persone. Io le confermo che la mia sensazione è stata quella di vedere veramente delle facce che non meritavano di stare davanti alla televisione. Il popolo francese non è fatto dai suoi governanti. Ma con questo concludo e mi permetto soltanto di suggerire una cosa. Salvini, quando è che lo apre il banco in piazza per vendere le magliette? Perché questa è l'unica cosa che so fare comunque. Ogni giorno deve stampare una maglietta, perché è l'unico modo con cui sa comunicare. Allora gli consiglio che ci sono tantissimi banchi degli ambulanti nei mercati, che ne apra anche uno che lui, che la finisca di rompere le scatole con delle cose assurde come quelle che ci propinano ogni giorno. Allora, ho ricevuto un messaggio. Aspetta. Ho ricevuto un messaggio nella giornata di ieri che recita in questo modo: fonti di Milano, ti giuro, fonti di Milano mi dicono che ci sei tu dietro questa gnocca, anzi dietro sta gnocca Serena, che mi manda foto porno, ma ha la gnocca brutta come una ponga, ti giuro, così. Tu l'hai, vabbè, trombata, hai un bello stomaco. B, che sarebbe Barnard, cioè fonti di Milano, ti giuro, fonti di non Milano. Non ho capito niente, cioè questo Barnard. Ma non lo so, signor Paolo. Non ho capito. Fonti di Milano. Ti ha mandato un messaggio, quel folle. Sì, un messaggio Barnard. Privato, e poi l'ha anche scritto sul suo sito, il folle, il pazzo, l'ha scritto sul suo sito, pazzo, io lo dico in senso buono, non è che lo dico in senso negativo. Beh. No, ha detto la strana storia, evidentemente c'è una che manda delle foto al signor Barnard. Una tale che si chiama Serena, secondo lui ci sono fonti di Milano, mi dicono che ci sei tu dietro questa gnocca. Ma ti rendi conto o no? Dove si può arrivare? A che livello si può arrivare? Vabbè, vediamo se lo troviamo, Barnard, intanto. Chi parla? Paolo? Chi parla? Cruciani, ma perché mi hai mandato quel messaggio? Non ho capito. Cazzo vuoi? Ma Paolo, scusami, mi hai mandato un messaggio cazzo ieri. Cazzo vuoi? No, ma scusami, Paolo, mi hai parlato. Ma mi hai cazzo mandato, vuoi? Mi hai mandato un messaggio assurdo. Mi hai mandato un assurdo messaggio. Mi stai mandando orde di giovani gnocche che improvvisamente bramano il mio Big Camillo, ok? E danno tutta la figa brutta come la punga del Tevere, cazzo! No, ma scusami, piuttosto, Paolo. Cruciani. Ma noi non ti mando nessuno, sei paranoico! Cruciani, sì, dai, dimmi. Faccelo vedere, dai. Ma queste cose le fai tu, non le faccio queste cose. Ma Giulio Braghe che cosa? Non ho capito, Giulio Braghe che... È quello che mi sto chiedendo anch'io. Io insegno l'economia a Rocco Siffredi e Valentina Nappi. In che senso, scusa? Sono le ultime speranze rimaste, visto che anche tu sei uno stronzo eterovigliacco come Parenzo. Eterovigliacco? Vabbè, dai, giù le braghe, faccelo vedere. Giù le braghe. Faccelo vedere. Ma non ho capito, ma perché? Giù le braghe, ma chi giù ti le braghe, cazzo. Ma se io non ho capito, scusi, Barnard, scusami Paolo, anzi ci diamo del tu. Cruciani, se sei tu, mandale... Che fai confusione. Sì, Cruciani, se sei tu, cazzo, mandale dall'estetista. Ma che vuol dire, scusa? Se sei tu, chi? Ma te sei diventato paranoico, io non ti mando nessuno. A te io dovrei spiegare molto bene tante cose, visto che parliamo nel tuo caso di deficit di bilancio, anzi forse addirittura default acclarato, ok? Acclarato, e non prendermi per il culo, dai, faccelo vedere, dai, faccelo vedere. Giù le braghe, Cruciani, faccelo vedere. Ma queste sono cose che fai tu, che hai fatto tu, peraltro. Sì, faccio io, ho grandi dubbi su quelle foto, grandi dubbi. Tu hai troppi dubbi nella tua vita, Cruciani, tecnocrate. Io ti distruggo in economia, tecnocrate. Vabbè, quello può darsi, ma chi se ne frega. È una certezza, non è può darsi. Sterco di cercopiteco, giù le braghe, dai, vediamo chi ce l'ha più lungo tra te. Ma chi se ne frega, Paolo? Ma non me ne frega. Ma che gara, ascolta un attimo. Che gara tra le Parenzo, che cazzo dici? Tra il tuo ed il mio c'è la stessa differenza che passa tra un camion di arance e una petroliera giapponese di 500 metri, ok? Ma no, che il camion d'arance e una petroliera giapponese, okay, questo è il paragone. Il di Pisa è un pistacchio, ok? Vabbè, siamo veramente ormai non ti resta più nulla tranne il sesso, questo è il punto fondamentale. Tutti devono conoscere Cruciani, tutti devono conoscere le dimensioni transnazionali del mio eroe. E quale sarebbe? Camillo, quale sarebbe il tuo eroe, scusa? Il mio eroe, ormai sesso. Non ci resta che combattere in questo modo tutti gli stronzi e tarovigliacchi come te, Parenzo, ok? Va bene, ormai abbiamo perso. Anticostituzionali. Vabbè, questo ciao, arrivederci. Generate disperazione, sì, distruzione, rassegnazione e agli eccessi. Vabbè, ciao. Ermelindo, provincia di Avellino. Buonasera. Grande Cruciani, adoratore della femmina del fico. Adoratore della femmina del fico, cioè la fica. Stasera la tradizione. Ermelindo, ma non ho capito, ma non è che è una cosa strana che a me piacciono le donne, anche a lei piaceranno le donne, no? Assolutamente. Anche a Parenzo sì, allora che vuol dire adoratore? Parenzo non lo so. No, glielo dico io, glielo posso confermare. Beh, non lo so. Adoratore. Non è che il fatto Parenzo è che lei non... Parenzo è comunista, quindi non ci metto. Ma che vuol dire? Non c'entra nulla. Cioè... No, vabbè, lì sono nella comune, che altre cose, non entriamo in quella. La comune. La comune. Quale comune? Sì. Sono comunisti del 68, hanno dietro vecchi retrati. Parecchi arretrati, vecchi retaggi. Vabbè, Ermelindo, a parte queste minchiate, dimmi. Niente, c'è qualche cosa che non va nelle immagini che vengono dalla Francia. Cioè, in che senso? Eccole un altro. No, Parenzo, stai buono, stai tranquillo. Io non, allora, se avete visto le immagini, no, c'è la macchina crivellata di colpi, giusto? Sì. E si vedono i fori. Vai, Derrick, forza. Perfetto, no, stai calmo, Parenzo, stai calmo. Parla il tenente Colombo, forza tenente no, Colombo. No, guarda Parenzo, sei un fallocefalo idrosaturo, guarda, non c'è nulla da fare. Sì, sì. Fallocefalo idrosaturo. Ma che vuol dire? A casa, dai. Una testa di cazzo piena d'acqua. Sì, una testa avanti, di cazzo piena d'acqua. Forza! Detto questo, questi hanno sparato, imbracciano un fucile AK-47, giusto? Allora? Perfetto. E sparano il poliziotto a terra da 50 centimetri. E allora? Ora, voi siete Radio 24, chiamate qualsiasi esperto di balistica e dite uno colpito da 50 centimetri con un 7,65 con un fucile d'assalto. Cosa succede? Che succede? Dovrebbe non zampillare... Non gli trovano più la testa. Allora, avete visto la raffica nel parabrezza dell'auto? È una rosa di colpi e i fori sono di un paio di centimetri. E c'è una rosa di colpi. Ma che ne sa lei che quel poliziotto per terra non è crivellato di colpi? Ma lei ha visto sangue nelle immagini? Cioè, si vede la nuvola di fumo e non si vede il sangue? Non si vede una schizza di sangue. Ah, dunque il problema è il sangue? No, non è il problema il sangue, sto dicendo. Cioè, non essendoci il sangue che zampilla fuori, tipo film? No, fermi tu. Dai, su. Lei chiami un esperto di balistica. Tolga il fatto che la Francia tolga tutta questa enfasi, tolga tutto. Perfetto. Chiami un esperto di balistica, che cosa mi dovrebbe dire? Che è tutta una montatura, una buffonata. No, gli dica, questo qui viene sparato da 50 cm con un fucile dell'ingegnere Michael Kalashnikov, che titolò il fucile della moglie Kalashnikova. Un fucile d'assalto AK-47. Ha visto i fori che ha fatto nel parabrezza dell'auto, fa vedere la televisione. Sì. E poi vede quello lì a terra e dice: questo è reale, punto. Vabbè, Gianni da Brindisi. Gianni, io non ho parole. Gianni. Vabbè, ma c'è gente che ha dei dubbi. È divertente perché ogni volta che succede qualcosa. C'è gente che crede anche che nessuno sia mai sbarcato sulla Luna. C'è gente che crede tante cose, per carità. Va bene. Vai, Daniele, vai, così. Dimmi. Anzi, Gianni, dimmi. Niente, io vorrei dire soltanto una cosa, che la storia del terrorismo arabo musulmano è molto antica. Mm. Nel, nel 1500 a Otranto tagliarono la testa a 2000 persone. Quindi io proporrei di fare una colletta, comprare un po' di bombe atomiche e buttarle su tutti i paesi arabi, perché non hanno sentimenti, sono uomini senza sentimenti. Cioè lei propone, facciamo una colletta, non si sa tra chi, prendiamo un po' di bombe atomiche. Tra tutti gli italiani, tra tutti gli europei. Sì, certo, collette tra tutti gli europei, una colletta tra tutti gli europei. Pigliamo lei di cosa si occupa nel pigliamo le normale. Bombe atomiche. Quando lei è normale, di cosa si occupa lei? Quando ha dei momenti di normalità. Perché adesso no? Che c'ha secondo te questo qua? Fammi capire. Quando lei ha dei momenti di normalità, di che si occupa? No, io così lavoro. Per sapere, dei momenti. Sì, perché io lavoro fa nei momenti di normalità, di lucidità, nei rari momenti di lucidità. Perché adesso non sono lucido. No, io qualche dubbio lo tengo. Ce l'ho qualche dubbio. Volevo capire nei momenti di lucidità cosa fa, per capire anche l'altra faccia della luna. Perché cioè nei momenti di lucidità. Lucida. No, ma io chiedo a lei che cosa fa nella vita, nei momenti lucidi, come si guadagna da vivere nei momenti lucidi? Cosa Gianni, fa? Dimmi. Lavorando, no? E che fai? Sì, ma che lavoro fa però? Ma io sono un metalmeccanico comunque. Un metalmeccanico, capito? Anche i metalmeccanici pensano, caro Parenzo. No, ma no, io mi prendo per anche i metalmeccanici. Non fare tanto lo snob. Non fare tanto lo snob. Che oggi dovresti inginocchiarti. Oggi dovresti inginocchiarti davanti al signor Marchione che ha dato 1500 posti di lavoro in più agli italiani. Non mi inginocchiati di fronte al signor Marchione. Inginocchiati, ringrazia. Anche i suoi interessi. Certo. Guarda che non è che ha fatto un regalo, E accarezza un po' il busto di Marchione. Accarezza il busto di Marchione. Ma non ho nessun busto, né me. Non uso busti, non mi piacciono, né tantomeno quello di Marchione. Daniele da Parma. Io ho invece in casa un dipinto con raffigurato signor Dell'Utri. Signor Dell'Utri. In casa ho acquistato, anzi mi hanno regalato un dipinto, bellissimo dipinto con il viso di Dell'Utri, tutto grugnito, tutto fiero. Nessuno te lo un quadro mai, con Dell'Utri, vale. Domani lo fotografo e lo posto su nessuno Twitter. Nessuno te lo toglierà mai. Fidati. Beh, guarda che potrebbe diventare di culto in realtà, Daniele da Parma, nessuno, Daniele nessuno, da Parma. Nessuno. Cioè in salone io ho un ritratto mio perché salone, ho, detto bene, in salone ho un ritratto mio nella piccola sala. Nel salone. Ho un ritratto mio, ritratto mio perché insomma vagamente gotico, ma è gotico, non esagerare. Già uno che si mette in ritratto. Saddam si metteva in ritratto. Sono stato a Dubai. L'emiro del Dubai si metteva. C'è un mio ritratto. Si mette in tutte le stanze. Un piccolissimo albergo, ritratto. Dai. Un ritratto, dai. L'emiro del Dubai, capito? Un ritratto, un ritratto del sottoscritto. Un piccolo omaggio. Come l'emiro. Un piccolo omaggio alla propria. No? Come Saddam. Ma per solleticare un po' la mia. Proprio, no? Il. Ego. Proprio ego, la propria ego? No, credere in se stessi, queste cose qua. Ma credere in se stessi non c'entra con avere un ritratto. Sì, un ritratto, un bel bellissimo ritratto. E accanto come Saddam. Accanto c'è quello di Dell'Utri. Accanto c'è quello di Dell'Utri. Pensa a te. Daniele Parma. Che casa degli orrori. Ti prego. Daniele Parma. Buonasera a tutti. Dai. Complimenti per Dell'Utri, complimenti per la notizia sulla Nappi. Dopo l'intervento di Barnard e quello della bomba atomica, il mio intervento è praticamente inutile. No, volevo dire soltanto che. Cioè, sentendo tutta questa storia qua sull'Islam, eccetera, mi domando se io posso, no? Io sono un ignorante proprio di bassa lega, mi domando se posso uscire dal mio ufficio e andare, il primo che passa, islamico che passa, e dirgli il tuo Dio non vale niente. In che senso? Visto e considerato che l'Islam, no, dovremmo farci la guerra. Vabbè, allora, ma non ho capito il ragionamento. Il ragionamento è una provocazione. Secondo me ci vorrebbe molto più rispetto nei confronti delle persone che la pensano diversamente. Mamma mia, che frase banale. Ci vorrebbe molto più rispetto. Ma che vuol dire? Non vuol dire un cazzo questa frase. Non vuol dire un cazzo. Vuol dire perché non devo chiudere. Liberi. Non siamo liberi e ci vorrebbe più rispetto. La fiera delle banalità. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Oh, finalmente è cambiato discorso. Ci parli di Valentina Nappi, ci parli di fighe. Parlaci di fighe e basta. Oh, è questo che voglio sentire, Giuseppe. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente.